è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Quanti riflessi sull'acqua, la solita bionda che ammicca, muove un pensiero i suoi passi e si fa strada. Parenzo, come al solito sei in ritardo? Vagamente in ritardo, sì, sono in arrivo comunque, più nei tuoi studi. Sei in ritardo netto perché sono 18.34 e inizia la Zanzara e tu sei ancora in macchina. Va bene, ma va bene. Ti sto portando un personaggio pazzesco in studio, non voglio dirti niente. Però non mi dire nulla, non mi dire niente. 800 24 0024, questa è la Zanzara che inizia con, come al solito, con Parenzo che il mercoledì per la registrazione della sua trasmissione arriva tardi, ma va bene lo stesso. Quella voce che senti è quella di Apicella, che non c'entra niente con i fatti di attualità, per carità, e magari non frega niente agli ascoltatori, ma doveva fare un concerto il 10 marzo a Milano. Ora, per timore di manifestazioni contro Berlusconi, questo concerto è stato annullato. Vabbè, ma pazzesco questo. Ma noi invece pazzesco di occuparci di Gheddafi, ci occupiamo di Apicella, capito? Siamo un po' originali da questo punto di vista. No, appunto, dicevo, cosa c'entra questa musica? Non c'entra niente in fiamme. Non nulla. C'entra nulla. Col Medio Oriente in fiamme, io mando la voce di Apicella che dice: la mia colpa è essere amico di Berlusconi. Sentiamo. Ho avuto la fortuna nella mia vita di essere amico del presidente Silvio Berlusconi e tutto ciò comporta una serie di cose che non c'entra nulla nei miei confronti, vorrei dire. Per cui, però, visto che l'Italia è un paese che si vive in questo modo, allora ho scelto, pur di non cambiare città, ho scelto bene di cancellare la serata, tutto qua. Beh, non è un dramma per l'Italia, no? Beh, sì, no. Però, non mi pare un problema del paese. No, non è un problema del paese, però mi sembra strano, no? Timore di manifestazioni, concerti cancellati. Vabbè, lasciamo perdere. Berlusconi fa un complimento, credo che sia in dialetto, non so che cosa, magari ci può aiutare il primo ospite della serata che è già qui con me, che fra poco vi presento. Fa un complimento alla Marcegaglia, sentite. Eccola qua la nostra presidentessa, la mia presidentessa di Confindustria, Emma Marcegaglia, a cui vi prego di tributare un applauso di benvenuto. È quella che noi a Milano chiamiamo una bella tusa. Allora, naturalmente questa non è una trasmissione che fa l'elogio della Marcegaglia, sarebbe ridicolo, sarebbe come Radio Pyongyang, naturalmente, no? Pur essendo una radio di Confindustria. Ma siamo voglio in Italia, quindi ci può anche stare. No, ma io l'ho mandato in onda semplicemente perché Berlusconi fa un complimento a una bella donna in questo periodo, va benissimo. Volevo chiedere al vice ministro Roberto Castelli, che è qui con noi. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera anche a Parenzo. Senta, la traduzione qual è? Bella donna. Bella ragazza. Tusa la ragazza. Tusa la ragazza, ma che cos'è? Milanese? Milanese, lombardo. Lombardo, si utilizza anche dalle parti sue? Sì, invece ma cos'è, a Bergamo una cosa arcaica, barocca? No, non si usa più Bella Tusa, no? Dialetto, si dice? Dialetto lombardo, Bella Tusa. Porta avrebbe detto Bella Tusa. Bella Tusa, bella ragazza. Mentre invece in bresciano sono legnare. Come si dice in bresciano? Legnare. E la bergamasco la sceccia. Chissà se a Mantova dalla Marcegaglia, però lei pare aver capito, sentiamo la risposta. Mi permetto una riva, allora Bella Tusa va bene purché non sia una scusa per non fare quello che noi chiediamo sulle riforme economiche che sono portate. Vabbè, che serietà pure la Marcegaglia, però vabbè, insomma, la risposta. La se risposta mi consente un commento a Marcegaglia, sì, oltre che essere bella condivido, ma soprattutto è brava, quindi credo che vabbè, adesso lei lo dice qui perché no, guardi, chi mi conosce sa che io non sono d'uso a piaggerie di nessun tipo, è quello che penso. Vabbè, comunque Bella Tusa è così, no? Adesso non vogliamo fare la trasmissione. Non vogliamo fare la trasmissione se la Marcegaglia è una Bella Tusa oppure no. Però lei condivide il giudizio di Berlusconi. Condivido il giudizio, ma soprattutto ci tenevo a dire che il giudizio credo più importante è che è veramente un ottimo presidente della Confindustria. Anche se ci critica un po' troppo. Abbiamo la Lega, critica no, la Lega. No, la Lega, il governo. Ah, il governo, critica giustamente il governo. Il governo va spronato, però ogni tanto. Parenzo, per questa digressione sulla Bella Tusa saremo un po' ripresi, però vabbè. Sì, scusami, devo far abbassare la radio al tassista perché ti sta ascoltando e ho il ritorno in cuffia. Se no, ecco. Ti ha già menato, no? No, tassista, no. Buonasera. Però, meno male. Posso dire un'altra cosa? Sì, signor Castelli. Pronto? Sì, signor tassista, dica. No, niente, qua mi passa il telefono, io stavo ascoltando la radio in tranquillità. Senta, mi sono piombato in macchina, mi sono piombato, se Parenzo fa qualcosa che non va, insomma, lo scarichi. No, sì, lo scarichi, no, lo lasci qua, però lo riprenda. Com'è, com'è Parenzo alla radio? Devo portare per forza, sai, ritardo, l'ho appena detto, no? Esatto, ma secondo voi, secondo i tassisti romani, Parenzo com'è alla radio? Troppo comunista? No, radio, io il mio sogno era quello che un giorno mi salisse in macchina, perché tutte le volte sento che sale nella macchina di un tassista e ci parla. Ho detto, un giorno prima o poi capiterà. Ho detto, una volta l'ho sfiorato all'aeroporto. Ed è capitato. E lei non sa chi ha accanto Parenzo, ma manteniamo il mistero. Un signore molto importante, un signore che sa un sacco di segreti della storia italiana, anche molto controverso, che ci darà una notizia bomba fra poco quando arriva qui. Vabbè. Ah, sì? Sì, sì, poi lo sentirà lei andando col taxi. Non sa, a meno che non finisca il turno, no? Finisce il turno, no? No, no, alle 9, ce l'ho ancora. Alle 9, grazie. Ce l'ho ancora, alle 9 finisco il turno e finisce la trasmissione. Bene, mi ripassi Parenzo, grazie. Piega. Viva i tassisti, 1839 800 24 00 24. Volevo dire una cosa, commento della questione Picella, che non ha potuto fare il concerto. Che non è gravissima, insomma. Ma secondo me è un problema dell'Italia ed è grave che un professionista non possa tenere una sua esibizione per motivi politici. Io direi che su questo dovremmo fare qualche meditazione. Mi sembra che sia un problema dell'Italia, non che non sia un problema dell'Italia. Anche se ci segnalano che Apicella finora ha annunciato di aver venduto un solo biglietto, ma comunque questo, insomma. Beh, pensate se fosse accaduto a Saviano, sarebbe già arrivati i caschi blu, l'ONU. L'annullamento di un concerto, dice lei, no? Di una esibizione. So che a Bergamo Saviano non potesse fare una sua esibizione, come minimo arrivano i caschi blu. Allora, come sai, caro Parenzo, e per questo lo ringrazio comunque, perché è finito oggi nel mirino Castelli, in particolare di un giornale, ma ancora prima altri giornali si erano occupati di questa vicenda. Oggi, per esempio, Libero titola: La nuova Affittopoli, case regalate a Roma, i nomi dei raccomandati. Inquilini e Anasarco, Elio Vito, che è parlamentare, come sapete, PDL, Sirchia, ex ministro della Sanità, e Castelli, che si arrende subito, lascio l'appartamento. La prima cosa le chiedo subito, Castelli, lei è un raccomandato, cioè ha ottenuto questo appartamento da Elena Sarco, 700 euro a Monteverde, per quale motivo? Ma motivo molto semplice, io quando ho lasciato l'appartamento che abitavo a Regina Coeli per motivi di sicurezza come ministro della giustizia, ho cercato un altro appartamento. Mi sono rivolto, come si fa normalmente, ad amici, agenzie e conoscenti, e un conoscente mi ha detto: guarda che Elena Sarco affitta appartamenti a prezzi convenienti. Per cui io ho chiesto a Elena Sarco, mi ha fatto dire due o tre appartamenti. Ho detto: questo mi interessa, quanto volete? Vogliamo tot, e tot gli ho dato. Quindi se c'è al massimo qualcuno da rimproverare non è certo il sottoscritto, ma Elena Sarco, che a quanto pare chiede poco per gli appartamenti che mette in affitto. Ora però ci sono due questioni. Primo, che lei un legame con Elena Sarco ce l'ha, perché suo padre è stato sì, è stato agente di commercio, ma questo credo non c'entrava, questo niente, non costituisca elemento preferenziale. In ogni caso, e poi quando un ex ministro chiama Elena Sarco, si può immaginare che magari ci sia un trattamento di favore, ma qualcosa del genere. Io non l'ho no? chiesto, non ho chiesto un euro di sconto. Nell'appartamento in cui abito, è fatto di 50 appartamenti, sono quello che paga più di tutti. Ma è un brutto appartamento? Direi che è un appartamento medio-basso, una casa dignitosa, ma medio-bassa. Penso che rispetto ai canoni di mercato spendo circa un 200-250 euro in meno. Io dissi anche allora, lo scrisse Giannino, disse: ma vieni a vedere questo appartamento, vedrai che non è così lussuoso come descrivete. Sì. Non è venuto. Poi l'ho scritto anche al Fatto, ho detto: venite a vederlo, vedete, non è venuto nessuno, perché conviene far passare i politici per profittatori. Allora, per tagliare la testa al toro, ho detto: benissimo, me ne vado, così è finito. Però è curioso che lei abbia deciso di andarsene, e il giorno dopo è uscita questa inchiesta sul Libero. Ha avuto qualche spiffero? No, io per la verità era già tempo che meditavo di andare via, perché non mi piaceva tanto questo appartamento, devo dire. E poi non è così conveniente come viene, ripeto, ci guadagno circa 200-250 euro al mese. Sì. Quando è venuta fuori la storia del Trivulzio, ormai io sono vecchio del mestiere, ho detto: di sicuro li tirano fuori la storia del mio appartamento, per cui me ne vado. Però diciamo che la cosa è diventata concomitante, avrei dovuto andarmene magari tre giorni prima, però l'ho deciso ieri e ieri me ne sono andato. Senta, allora ricordiamo, Parenzo, se hai qualche obiezione puoi intervenire tranquillamente, che Elena Sarco è un ente di diritto privato, perché è l'ente che raccoglie le pensioni degli agenti di commercio, di quelli che fanno le transazioni finanziarie, eccetera, eccetera, che però è controllato, c'è cioè un po' una mano pubblica. pubblica, che c'è un controllo, una supervisione del Ministero del Lavoro. Ora, la questione è molto semplice. Secondo te, un politico, un uomo politico, può avere a che fare con enti di questo tipo per gli affitti delle case o no? Sì, no, o no? Castelli, detto, in che cosa ha sbagliato? Certo, se ha sbagliato. No, l'ho detto un sacco di volte, l'abbiamo detto, abbiamo discusso più volte, è molto simile alla vicenda di D'Alema, che D'Alema anche lui all'epoca viveva in una casa di un ente pubblico, di per sé assolutamente no, questo non è un ente reato. Pubblico però, questo non è un ente pubblico, un ente no, di diritto ma sono privato. Questi enti che hanno a che fare con la politica, parapolitici, no, che comunque hanno dei rapporti, sì, sì. E forse hanno anche un legittimo interesse, cioè non è che lo affitterebbe un appartamento a un operaio della FIOM, no, non penso che ci siano operai della FIOM o persone che hanno redditi medio-bassi dentro questi appartamenti. In genere la scelta politica di questi enti è quella di darle a persone per bene, a persone, cioè, che comunque contano. Lei si è sentito, vuol dire, ha commesso un errore nel prendere questa, col senno di poi, nel prendere col senno di poi, sì, perché è stata una persecuzione che ogni anno me lo tirano fuori, quindi mi ha rovinato devo dire la verità, un l'immagine. Po' qualche serata, no, l'immagine no, però qualche sera a pensare, a rimuginare su questa cosa l'ho passata, quindi ho deciso che per tagliare la testa al toro, anche se non, mi ritengo in piena coscienza di non aver fatto nulla di male, che ripeto, ho chiesto a Nasarco quanto volete, mi hanno detto vogliamo tanto e tanto pagato, però quindi... il solo fatto di chiedere alle Nasarco poteva essere evitato, no? Invece... ma io non ci ho pensato, a dire la verità, perché ripeto, è stata una... la lettera del contratto è già stata mandata? Sì, sì, già mandata oggi. Mandata, via. Diciamo che uno dovrebbe rivolgersi a un'agenzia immobiliare, come perché capita. No, ma scusi, lei quando compra una qualsiasi cosa fa? Si rivolge al mercato, si rivolge al mercato, che può essere un'agenzia immobiliare, un amico, un conoscente. Certo. Era chiaro, questo è del tutto evidente, che l'Enasarco era quello che offriva la miglior soluzione qualità-prezzo. E io l'ho scelta, ma ripeto, in maniera non ho chiesto un euro di privilegio, tant'è vero che in quella casa io sono quello che paga più di tutti. No, ma infatti d'accordo. Quindi non sono privilegiato rispetto agli altri inquilini, anzi sono quello che paga più di tutti, ma non perché Nasarco ha detto siccome sei politico ti facciamo pagare di più, perché essendo l'ultimo arrivato Nasarco evidentemente adegua gli affitti che liberamente ha deciso di chiedere, ripeto, questo è il punto fondamentale. Cioè il problema casomai è dell'Enasarco. Casomai il problema è dell'Enasarco, non mio. Allora andiamo col traffico, poi torniamo subito. Quanto ne hai ancora? Guarda, andiamo col traffico. Qui chiedo subito al tassista simpatico. Sì. Dove siamo qui? Siamo a Piazza dei 500. Beh, quindi se posso, dare un suggerimento al tassista, faccia pagare di più Parenzo, che è un ricco giornalista. Ma che ricco, adesso ricco. Guarda, vivo del mio, amico mio. Ricco. Vivo traffico, del mio. traffico. Come si bella cavalla stugamella con vino. Eccoci qua, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara con il viceministro Roberto Castelli della Lega. La situazione Gheddafi, caro Parenzo, la situazione Gheddafi. Lei considera Castelli Gheddafi uno spietato dittatore che va rimosso in qualche modo? Sarebbe una liberazione? Oppure un amico dell'Italia, come è stato non solo per il governo Berlusconi o per altri, anche per altri governi? Ma intanto realizzo una fortissima ipocrisia, perché ricordo che Gheddafi qualche anno fa, quando nella Lega né Berlusconi erano al governo, tirò addirittura dei missili sull'Italia. Ci tirò dei missili. Sì, sì, ricordo. Eppure certo. Allora nessuno fece nulla. Adesso, per il semplice fatto che è stato ospitato in un giardino di Roma, dove lui liberamente si è organizzato le serate come meglio ha creduto, Berlusconi è stato criminalizzato. Allora, la verità vera è che Gheddafi, da quando ha il petrolio, è stato contattato dall'universo mondo e soprattutto dall'Italia, perché come sappiamo, essendo un vicino che ha il petrolio e il gas, è fondamentale. Però lei lo considera un dittatore? Beh, non è che lo considero io, di fatto è un dittatore, su questo non c'è il minimo dubbio che sia un dittatore. E sarebbe un bene che sparisse dalla Libia oppure no? Guardi, il discorso è complesso. Da un punto di vista meramente ideale, è chiaro che un mondo in cui vige la democrazia e la felicità e il benessere in tutti i paesi è evidentemente il mondo più auspicabile. Da un punto di vista meramente egoistico, io ricordo che i regimi più o meno democratici che c'erano dall'altra parte del Mediterraneo erano tutti regimi moderati. Anche Gheddafi è passato dallo sparare i missili sull'Italia a essere un elemento di stabilità nell'area. Dunque lei preferisce la stabilità magari a una democrazia o all'incertezza? Allora, se fossi di sinistra risponderei preferisco la stabilità e la democrazia. Invece siccome non dovendo scegliere, io sono invece un rozzo leghista egoista e allora cercherei di mantenere la stabilità cercando di portare in tempi diciamo opportuni la democrazia. Vabbè, però questa è una non cosa non so un po', se Parenzo un po', è d'accordo un po', con me un po', so che Parenzo è molto di sinistra, vediamo cosa dice. No, mi interessa sapere il suo parere. Non sono molto di sinistra, ci ho detto l'ascensore della radio. Adesso. Vabbè, ma è dentro l'ascensore della radio, ma che è sta cosa? Una cosa folle. Vabbè, insomma, abbasso Gheddafi oppure no? Gheddafi, se rimanesse in sella, lei sarebbe contento? E dipende da cosa ha combinato in questi giorni. Beh, 10.000 morti pare. Ma io non credo. Dopo 10.000 morti è sopportabile, no, ancora Gheddafi? Se veramente avesse fatto 10.000 morti, no. Perché è chiaro che c'è un limite. Finché... Dovremmo interrompere i nostri rapporti. Sì, direi di sì, perché se veramente ha fatto 10.000 morti, allora siamo di fronte a non più a un dittatore, ma a uno che fa un genocidio, e quindi le cose cambiano enormemente. Io personalmente ritengo difficile che queste cifre siano reali, anzi auspico che non lo però siano, sembra, anche per questioni ovviamente umanitarie. Però se veramente ha bombardato la folla, allora le cose evidentemente cambiano aspetto. Cioè, fosse più... provato che ha fatto quello che ha fatto, dovremmo interrompere allora, qualsiasi rapporto con Gheddafi. Sì, io credo che allora le cose cambiano aspetto. E beh, questa non è male. C'è un agente di commercio, poi queste cose non sono controllabili. Sono agente di commercio a 12 anni, da 10 chiedo un appartamento a Lena Sarco, ma non ottengo mai. Quello del ministro lo prenderei io. Prenda il mio, se vuol venire a vederlo. Però è anche una protesta, tanto è arrivato Parenzo. Eccoci, è anche ministro, una protesta rispetto a una richiesta, che però non sappiamo il dettaglio di queste cose. Ma ripeto, comunque sono tutte cose non imputabili a me, ma Lena Sarco, cioè prendetevelo Lena Sarco, perché ce la prendete con me? Vabbè, qualcuno... no, lei secondo me doveva rimanere lì. No. Cioè lei a questo punto... No, ha fatto un'operazione mediatica, però ha fatto un'operazione mediatica. Certo. È uno dei pochi che l'ha abbandonato subito. Lei, secondo me, se ha delle ragioni come le ha spiegate questa sera, doveva dire: oh ragazzi, ma cosa volete da me? Ma cioè, infatti, io me l'ho andato, io rimango. No, esatto, infatti è quello che ho fatto per 2 anni. Poi, visto che la tempesta sta diventando una tempesta perfetta, e conoscendo le regole incontrovertibili mediatiche, sono sostanzialmente di due tipi: primo, una bugia detta 100 volte diventa una verità. Quindi la bugia che io sia un profettatore diventa verità. Secondo, i giornali hanno sempre ragione, per esempio il Fatto, lo dico apertis verbis citando anche il giornale, ha mentito dicendo che io avevo un appartamento a un passo a Villa Doria Panfili, un viale non è lontano, insomma, un passo, un paio di chilometri. Un passo, sarà un chilometro e mezzo così. Non è lontanissimo. Non è lontano. Non è lontanissimo, ma è chiaro che una zona città cambia completamente. Sì, una cosa è Via Carini, adesso per i non romani il Panteone certo, è una zona a un chilometro e mezzo, vediamo se è lo stesso valore. Certo. E allora, siccome anche in questo caso tu non riesci mai a smentire, taglio la testa al toro, penso aver ragione, ma di fronte a queste incontrovertibili leggi mediatiche voglio vivere tranquillo, voglio e adesso dove prende l'appartamento? Andrò ancora più in periferia, ma a questo punto ancora più in periferia chiederò di aumentarmi lo stipendio d'affitto. Se mi chiederanno 1.000 chiederò di pagare 1.100 in modo che stipendio da parlare di lo stipendio di che? Chiederà lo stipendio, scusi, la locazione, l'affitto. Allora, lo stipendio. Vabbè, abbiamo un minuto però, Sì, e poi cosa succede? No, e poi c'è la pubblicità, c'è il giornale radio. Lo sai, no, come funziona? Cioè, voi avete detto no all'immunità, però sì al processo breve, perché? Non abbiamo detto no, abbiamo detto allora bisogna stare attenti, nel senso che c'erano alcune ipotesi di immunità, quella più ritorno diciamo, all'immunità del 93. Ecco, su quella Bossi ha detto di no, perché noi riteniamo che sia, diciamo, il paese non capirebbe, noi già allora l'avevamo tolta. Però contemporaneamente riteniamo che un qualche ombrello, soprattutto per chi governa, ci debba essere, anche perché... Beh, quello diciamo, però è stato bocciato, diciamo, più volte dalla Corte Costituzionale. No, qui stiamo parlando di riforme costituzionali. Di riforme costituzionali. Va bene, ormai stiamo arrivando al paradosso che c'è qualche magistrato e anche qualche costituzionalista che sostiene che alcune leggi di riforma costituzionale siano incostituzionali. Quindi in Italia ormai si vede veramente di tutto. Però Bossi ha dichiarato... Ma lei è a favore del processo breve, per esempio? Ma anche qua bisogna intendersi. Quello che verrà in maniera, unanime è stato approvato un articolo della Costituzione che dice che approva l'equo, il giusto processo, e alla fine dice che la legge ne garantisce la ragionevole durata. Siccome stiamo terminando, quello che verrà discusso, lei è d'accordo oppure no dal 28? Allora, come razio sì. c'è qualcosa che va corretto. Beh, distinguo importanti. Distinguo leghista fondamentale. Nei prossimi parla giorni, l'ex ministro della giustizia, nei prossimi robe, giorni il diavolo si annida nei particolari. E questo manteniamolo a me. Giornale radio. E poi grazie, Castelli, grazie, grazie. Ma lo saluti, c'ha l'aereo, all'aereo. Dove? Per dove? L'aereo per i suoi posti al nord, la Padania. Buon viaggio. Siamo di nuovo qui, cari ascoltatori, con la Zanzara 1917 800 24 00 24. La gente è arrabbiatissima su questa storia della casa, okay, di Castelli. Ah, se l'appartamento di Castelli a Monteverde di 96 metri, il prezzo dovrebbe essere pagato non meno di 1.500-2.000 euro al mese, a meno che non viva in una stalla. Villa Panfili a quella distanza a Roma significa due passi. Chiedetelo a chi paga 750 euro per un monolocale non in centro o per una stanza Ottaviano. Va bene, sono tutti i quartieri e zone di Roma che magari la gran parte degli ascoltatori non conoscono. 800 24 00 24, i titoli del TG3. Potrebbero essere 10.000 le vittime in Libia, fosse comuni a Tripoli. Piloti disertano per non bombardare Bengasi ed è fuga degli stranieri. Da Tobruk a Bengasi sventola la bandiera tricolore della Libia anti-Gheddafi. L'est del paese nelle mani dei ribelli. Il racconto dei nostri inviati. Berlusconi sulla Libia ci ripensa. C'è un vento di democrazia, ma attenzione al fondamentalismo. Frattini, fermare il bagno di sangue. Con la crisi libica il petrolio sale a quotazioni record. Forti rincari per benzina e gasolio. Per ora nessun problema per le forniture di gas. Mille proroghe dopo lo stop di Napolitano, il governo annuncia modifiche, poi chiede la fiducia. Berlusconi sui decreti, non abbiamo poteri. La maggioranza riparte dal processo breve, in aula alla Camera a fine marzo. L'opposizione strategia sempre più confusa. E il delitto di Avetrana, arrestati il fratello e il nipote di Michele Misseri. Lo avrebbero aiutato a nascondere il corpo di Sara. Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino. E per tutti i ragazzi e le ragazze. Perché ti ho messo la canzone di Vecchioni che ha vinto il Festival di Sanremo? Non lo so, perché, ma è bellissimo. Perché il Secolo d'Italia, sì, interpretando a modo suo la canzone di Vecchioni come una canzone contro Berlusconi, contro il regime, contro non so che cosa, l'ha eletta a canzone simbolo dell'occupazione berlusconiana pure del Secolo d'Italia. Beh, ma è un reato fare questo, no? No, non è un reato, non è un reato. È abbastanza curioso, no? Che il Secolo d'Italia metta nel suo pantheon anche Vecchioni. Meraviglioso, cioè, oh, è una destra post-fascista, è una, come ha scritto Lanna nel suo bellissimo libro, no? I fascisti immaginari, è una destra che ha dei nuovi valori nel nuovo pantheon. Sì, un po', quindi... per adesso un po' flop, un po' fly, comunque va bene lo stesso. Briguglio, commissione d'inchiesta sulla compravendita, abbastanza curioso perché quando dal PDL vanno a Futuro e Libertà è tutto a posto, cioè il simbolo della democrazia. Il simbolo della democrazia, va tutto bene, passano dal disastro alla virtù. E invece quando tornano nel PDL sono tutti comprati. Commissione d'inchiesta sulla compravendita. Briguglio, perché? Sentiamo. Più tardi depositerò una proposta di legge di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla corruzione di questo tipo, cioè in Parlamento. Occorre che il Parlamento non possa assolutamente assistere inerte a questo shopping di parlamentari, a questa compravendita. Noi non possiamo pensare che una delle istituzioni più importanti del paese sia scenario, teatro e anche luogo di questo genere di... Vabbè, avete capito, insomma, una commissione d'inchiesta sulla compravendita, però è una cosa, sono cose da pazzi, cioè cose incredibili. A meglio una commissione d'inchiesta parlamentare che non un'indagine della magistratura, però, cioè che la politica... Ah, perché tu vorresti un'indagine della magistratura sul passaggio dei parlamentari? No, appunto, ho detto bene che la politica... Ma tu saresti capace di no, capace di niente. Dire una cosa di questo ma tipo. Ma non sono magistrato, dico che va benissimo che la politica faccia al suo interno chiarezza. Ma questo va benissimo. Ma come? Ma guarda, è una commissione parlamentare. Gli elettori è un problema politico. Gli elettori giudicano i singoli deputati e quello che fanno, li giudicheranno, certo, le urne. Il fatto che uno possa passare da uno schieramento all'altro si può fare, perché sì, c'è, come sai, un articolo della Costituzione. Il senza vincolo di mandato, non c'è dubbio. Però dov'è lo scandalo? Non parliamo? C'è mica un'indagine della magistratura. Poi abbiamo preso in giro qui 100 milioni di volte i passaggi, quello che ha detto quello fino a 3 secondi prima, poi ha detto un'altra senza cosa. Senza dubbio. Cioè, noi ci divertiamo con queste cose. Però una commissione parlamentare d'inchiesta è legittimo che il Parlamento faccia commissioni parlamentari. Già le commissioni parlamentari andrebbero abolite, che non servono solamente a niente, non sono mai servite a nulla, spreco di soldi, di denaro. Di questo si può discutere. Però tu hai una commissione parlamentare d'inchiesta. No, ho detto che va bene, non mi scandalizza, va bene che la politica faccia chiarezza al suo interno, non che non intervenga la magistratura. Vabbè. Perché, sai, qualcuno voleva far intervenire anche la magistratura su questa vicenda, eh? Sì. Io dico bene che la politica si pulisca da sola. Va bene. Traffico, cosa succede? No, non c'è il traffico. No, non lo so. C'è Prodi che parla, però, intervistato da TG3 sulla questione della Libia, dice: con la Libia si è andati oltre, lo spettacolo si poteva evitare. Ora la questione è molto semplice: con la Libia è inutile girarci intorno, ci hanno trattato tutti, politici, industriali, senza le Amazzoni alla tenda, finanza, tutti in 50 anni di storia italiana, tutti dal primo all'ultimo hanno messo la tenda a Villa Borghese, è solo una questione di baciamani, sequestrato Roma, hanno sequestrato Roma per 4 giorni in quella tenda lì, hanno bloccato Villa. L'avesse fatto Prodi, i leghisti avrebbero assediato quella tenda di Gheddafi e le Amazzoni. Allora la colpa di Berlusconi qual è? Più baciamani rispetto a Prodi, è stato un po' più elegante rispetto a Prodi. Elegante, inelegante, tutta la messa in scena, vestito come Otelma, i cammelli. Vuoi sentire Prodi oppure no? No, mi interessa Prodi. Non interessa niente Prodi. La dignità va sempre salvata. Rapporti con la Libia erano utili. Andare oltre determinati aspetti non è stato, secondo me, utile. Si è andati oltre perché si è fatto spettacolo quando non era necessario. Vabbè, e Cruciani, e Giuseppe Cruciani. Moderato. L'imitazione di Prodi non ti riesce. Deve essere più moderato, Cruciani. Dobbiamo essere tutti più calmi. Di Pietro, qui ecco. Oltre il vetro c'è un deputato, senatore dell'Italia dei Valori, che fra poco entrerà in scena. Chi è invitato? Però Di Pietro, che è il leader del signore che è oltre il vetro, ha detto, vabbè, è stato anche come al solito, no, molto pirotecnico, ha riacquistato un po' di verve Di Pietro da un po' di giorni a questa parte. Beh, c'è stato un paio di mesi in cui ha detto che voleva fare il bravo ragazzo. Di Pietro, Berlusconi l'ha ricevuto col baciamani e le Gheddafine. Vogliamo mandarlo? Dovremo fare una serie di manifestazioni, diciamo una piazza permanente. Io vorrei che ci fossero manifestazioni l'8 marzo. Questa, per naturalmente, il femminile, la signora De Gregorio, che dice che vorrebbe una manifestazione permanente. Ma la sentiremo più avanti. Di Pietro. Mi pare che lo abbia ricevuto non solo con tutti gli onori, ma con i baciamani e con le Gheddafine. Io credo che ci siano grandissime colpe del governo Berlusconi, perché Berlusconi in questi anni con Gheddafi ci ha fatto liblab e braccetti. Liblab e braccetti, che è liblab e braccetti? Forse lingua in bocca, non lo so. Liblab è lingua in bocca, credo, tecnicamente. Lingua in bocca. Liblab, lingua in bocca. Lingua in bocca. Poi vorremmo. Lei non l'ha mai fatto? Lei non ha mai fatto liblab? Ho capito, sì, allora, certo. Di che si lamenta? Un'espressione colorita. Va bene, 800 24 00 24, la musica intanto è scomparsa. Gioacchino Genchi, buonasera, no, col suo computer davanti, qui col telefono, bam, cosa sta maneggiando? Bam, bam, bam, bam, bam. Buonasera, grazie di essere qui, vice questore aggiunto, però la notizia è che lei non è più vice questore, cioè l'hanno cacciata dalla polizia, giusto? Cos'è sta musica? Sono stato destituito. Cos'è dalla polizia? Come avete messo? Si è avverato il sogno di Berlusconi. Cioè è stato cacciato dalla polizia di Stato, destituito, questa è la notizia. Come si è realizzato? Sono stato destituito dalla polizia di Stato. Ma ha detto che si è realizzato il sogno di Berlusconi, cioè Berlusconi voleva cacciarla, che c'entra? Tutto inizia dal famoso 24 gennaio, sta per scoppiare, del 2009, per scoppiare il più grande scandalo della storia della Repubblica. Cioè? mi ha preservato la parte dall'Unità d'Italia in poi, quando ha aperto le danze per quello che è stato il massacro di un metodo di indagine, di un modo di fare un'attività anche scientifica. Anche qualche magistrato ha detto che le vostre inchieste non erano proprio granché. Insomma. Le vostre in che senso? Io ne ho fatte con tanti magistrati. No, quelle sue e di, per esempio, di De Magistris. Beh, insomma, io sono sposato con un magistrato che è mia moglie, non sono sposato con De Magistris. No, va bene, questo Magistris è l'ultimo dei magistrati con cui stavo lavorando. Però scusi, che c'entra Berlusconi col fatto che l'hanno destituito dalla polizia? Lei è andato al congresso dell'Italia dei Valori, sì, e ha detto delle cose contro Berlusconi. Mentre ero sospeso dal servizio. Mentre era sospeso dal servizio, ha detto delle cose contro Berlusconi. Esatto. Pur essendo comunque un poliziotto. E questo non va bene, lei lo sa. Una persona sospesa dal servizio, nel momento in cui è sospeso dal servizio, viene meno da quelli che sono i doveri della funzione. Cioè, posto il fatto che se io fossi stato anche in servizio mi sarei potuto benissimo partecipare, come tanti colleghi fanno, congressi di partito, si candidano alle elezioni, vengono eletti, non vengono eletti, esprimono liberamente le proprie idee. Comunque lei è stato destituito oggi? Quando è stato? Sì, il provvedimento mi è stato notificato poche ore fa. Non è più un poliziotto? Non sono più un poliziotto. Dopo 25 anni di servizio? Sì. Si può fare ricorso per queste cose? Sì, chiaro, farò ricorso al TAR, il provvedimento ovviamente è totalmente illegittimo, anzi... Scusa, però Manganelli l'ha fatto, non Berlusconi. Sì, il provvedimento l'ha fatto Manganelli. È il capo della polizia. Però bisogna con la manina di Berlusconi? Bisogna vedere chi gliel'ha fatto fare, ecco. Cioè, lei sta dicendo che Manganelli ha ricevuto pressioni. Manganelli mi ha notificato qualche giorno prima il giudizio per l'ultimo anno di servizio col punteggio di ottimo, dandomi il massimo dei coefficienti parziali in tutti gli elementi di giudizio. Ma quando con la seguente motivazione: mi è stato notificato il 21 giugno del 2010. Tenuto conto di tutti gli elementi di giudizio risultanti dagli atti del fascicolo personale dell'interessato, nonché dei suoi eccellenti requisiti intellettuali, professionali e morali. Però, che c'entra? E questo si è ripetuto per 25 anni. Ciò non toglie, Genchi, che lei magari, pronunciando quelle parole su Berlusconi al congresso di Italia dei Valori, si è incappato in un procedimento disciplinare che ha portato alla destituzione. Cioè, il fatto che lei sia lei bravo, ritiene non che niente. Sia possibile in uno stato democratico che accada questo? Secondo me è un poliziotto in e servizio e che il capo dei ROS sospeso, condannato a 15 anni sia in servizio, che il capo dei servizi segreti sia in servizio, sono le norme, che quelli condannati dal G8 siano in servizio e vengano promossi. Sì, ma è un altro discorso quello. Io sto dicendo il fatto che evidentemente non è che hanno agito contro le norme, immagino che il capo della polizia ritengo non solo che abbiano agito contro le norme, ma ritengo che probabilmente se questo provvedimento, anziché essere adottato a Roma, fosse stato adottato a Milano, probabilmente ci sarebbe qualche autorità giudiziaria che già avrebbe aperto un fascicolo. Ah, cioè, lei sta dicendo... Roma? Perché Roma? Perché a Roma nessun magistrato si è... Beh, insomma, non c'è, sulla non base c'è di sicuramente cosa? La sensibilità che c'è a Milano. Scusi, fascicolo su quello sulla base che è il di comportamento cosa? Del Presidente del Consiglio. Cioè, avrebbero aperto un fascicolo su Berlusconi? Ma io ritengo... Perché cosa? Ma ci sono conclusione? Ci sono delle dichiarazioni non solo di Berlusconi, ma del capogruppo... Cioè, Berlusconi avrebbe dei fatto pressione. Chiariamo. Sì, sì. Berlusconi, lei sta c'è dicendo, avrebbe fatto pressioni su Manganelli per farla dimettere. C'è una dichiarazione di Gasparri, se vuole gliela leggo. Sì, vabbè, Gasparri, poco prima della sospensione, ci sono dichiarazioni di Cicchitto che dicono verrà il tempo anche per il protettore di Stato. Cioè, ci sono dichiarazioni evidenti. Genchi e Cicchitto, non Berlusconi. Cioè, secondo me qualsiasi procura dovrebbe aprire un fascicolo sulla sua destituzione per concussione, per pressioni del Presidente del Consiglio su Manganelli. Ritengo che nella mia destituzione siano solo delle scelte del Ministero dell'Interno, ma ci siano delle scelte superiori. Di Berlusconi? Il Presidente del Consiglio d'Italia ancora lei, è Berlusconi. Berlusconi o no? Di Berlusconi. Ancora è Berlusconi. Benissimo. Ancora, 8-0-0-24, beh, ancora sì, certo. Considerato l'esito, questo aumento di questi deputati scambisti, diciamo, che continuano ogni giorno, aumenta. Quando la nave affonda i topi scappano dalla nave. Beh, però adesso... non sono topi questi deputati. Adesso è esattamente il contrario, quindì Berlusconi c'è... Perché il grande problema probabilmente non è che Berlusconi non si faccia processare, che si faccia legge sul giusto processo, legittimo impedimento, tutto quello. Il grosso rischio che corre l'Italia è che Berlusconi venga mummificato dopo morto. Beh, dopo approfondiamo questa cosa. Mummificato dopo morto è curioso. 19:30, pubblicità. Come zanzare, queste ombre sulla strada. Danziamo noi come zanzare. Beh, ho trovato un'altra canzone che ha un riferimento con le zanzare. L'ho scovata, l'ho scovata. Geniale. Folco Orselli, un album che ha come titolo La Spina. È un cantautore italiano molto bravo, giovane, Folco Orselli. E buttano le briciole dai balconi e lasciano che acclari. Bravo, bravo, bravo senatore Pardi. Sembra un allievo di Paolo Conte. Sì. Effettivamente ha una voce del genere. Buonasera, senatore Pardi. Buonasera, come sta? Buonasera. Francesco Pancio Pardi. Da dove viene questo Pancio? Da un mio bisnonno che faceva il suo giù col Venezuela, dove parlavano spagnolo. E perché gliel'hanno affibbiato a lei? E perché è sulla carta d'identità, no? No, no, no, no. È passato attraverso il nonno. Perché da quando è che la chiamano Pancio? Da sempre, da quando ero piccolo. Ah. Perché era del nonno. Il nonno si chiamava Francesco, era professore di anatomia comparata, è stato pure sindaco di Pisa. Ma non ha niente a che fare con la rivoluzione, Pancio? No, per niente, no. È una cosa tutta familiare, non ha nessun accento politico rivoluzionario, no? È venuto per caso. Bene, 800 24 00 24, il senatore Pardi dell'Italia dei Valori è con noi. Ma qui abbiamo avuto prima notizia bomba: Gioacchino Genchi, sì, super consulente di De Magistris, quello che ha in mano il informatico, il famoso archivio Genchi, non no? so se ce l'ha in mano, quello dei tabulati, incrocio di numeri di telefono, conosciuto per questo, è stato cacciato dalla polizia, è stato destituito. Provvedimento incredibile, però si può dire incredibile. Provvedimento incredibile. Perché incredibile? Incredibile, così un po'. Provvedimento, succede di essere. È curiosito perché Genchi prima ha detto: io ho sempre avuto punteggi altissimi, ho sempre lavorato bene, non mi hanno mai contestato nulla, e poi partecipo a una cosa e mi sanzionano. È curioso, incredibile, nel senso di non credibile, ma voglio dire non ordinario. Non ordinario, esatto. Dice, non ha commesso questi crimini per essere cacciato dalla polizia. Sì, no, mi pare uno che. Ma tu sei sempre giustificazionista. Sono garantista con quelli che sono più vicini alla tua sensibilità. No. E invece con Berlusconi vai giù pesante. No, vabbè, come al solito. No, come al solito. Come? No, Cocco. Io sono garantista anche con Berlusconi. Tant'è che non voglio che si dimetta, ma che vada al processo. Ma non si deve dimettere per l'inchiesta giudiziaria. Però vabbè, se non entra nel dettaglio. Io sono garantista. 800 24 00 24, dove andiamo? Giovanni da Pavia, buonasera. Giovanni, mi dica. Buonasera a lei, dottor Cruciani. Giovanni, però parli, altrimenti. Sì, Michele da Roma, buonasera. Un attimo. Pronto? Giovanni, torno. Quando si riassesta, torno. Michele. Buonasera, Cruciani. Dica. Io volevo, come dire, raccontare un velocissimo episodio, penso a suo modo divertente, rispetto all'Elena Sarco. Sì. Io sono iscritto all'Elena Sarco in quanto agente. Sì. E da poco sposato, abitavo in una situazione un pochino disagiata, ho detto beh, quasi quasi vado a fare una domanda, tutto sì, sommato potrebbero darmi, come dire, sì, ascolto. Mi presento quindi a via Antoniotto Uso di Mare. Sì, e che cos'è Antoniotto? Che c'è l'Elena Sarco? È la sede dell'Elena Sarco. Ah, ok, vabbè. A Roma. Sì. E l'usciere mi guarda e fa, mi dica, cosa desidera? Ha detto, guarda, io vorrei affittare un appartamento. Sì. E lui mi guarda e mi fa, indicando con il dito verso l'alto, mi dice, ma ha un appuntamento, insomma, come per dire. Beh, pure lei si presenta così, devo affittare un appartamento, magari. No, magari perché la procedura è questa, io me l'ero studiata prima. Sì, cioè bisogna presentarsi normalmente, allora fare una domanda. Presentarsi, eccetera. Allora io, lui mi guarda e mi fa, dice, beh, avrà appuntamento con qualcuno? Ho detto, no, guarda, io dovrei così, fare una domanda. Rivolto verso l'ufficio che sta sì, vicino. C'è un signore che dovrebbe fare una richiesta di un appartamento. Cioè la prendevano in giro? Esattamente. Arrivo presso l'impiegato e mi fa, lei vorrebbe affittare un appartamento da noi? Dico sì, veramente. E mi dica un po', come lo vorrebbe questo appartamento? Insomma, già avevo capito sì. L'andazzo. Cioè, hanno cominciato tutti a prenderla in giro, funzionari. In giro, al terzo piano, come la vuole, col box. Insomma, ho fatto ridere tutta la Sarco. Ma, cioè, lei ci sta dicendo che il senatore Castelli qualche via preferenziale l'ha percorsa, ma o sbaglio? Non voglio dire questo, insomma. Però, vabbè, però insomma, oggettivamente se non i comuni mortali ci mettono non ci riescono, i ministri sì, i deputati sì, questa è la sostanza. Senatore Pardi, lei in che casa abita a Roma, essendo diciamo toscano? Io sto affitta da qualche ente pure lei? Sono in una zona, sto in una zona simpaticissima, vicino, affacciato su Piazza Vittorio, zona interetnica. Sì, molto interetnica. C'è un bellissimo mercato lì vicino, sì, al mercato. Però da dove l'ha presa la casa? Me la sono comprata con i soldi che avevo accumulato nella mia vita di professore prima, sì, di diventare, prima di diventare senatore. Se l'hai comprata direttamente? Me la sono comprata. Quanto l'ha pagata? Vabbè, perché adesso quanto l'ho pagata? Affari suoi, quanto l'ho pagata? Quanto l'ho pagata? Quanti metri quadrati sono questa casa? Sono 130. Le case umbertine sono tutte, anzi ho parlato con una signora del quartiere che mi ha raccontato che i suoi parenti avevano affacciati su Piazza Vittoria un appartamento di 450 metri quadri. Sì, là sono appartamenti perché grandi. Erano appartamenti umbertini, grandissimi, vaste stanze. Comunque lì siamo sui mezzo milione, scatta il mezzo milione. Quanto tempo fa l'ha comprato? L'ho comprato un anno e mezzo fa. Si è scattata la 600.000. Forse pure di più. Meno di 600.000. Trattamento di favore o agenzia immobiliare? No, assolutamente. Agenzia immobiliare, immobiliare privata. L'hanno riconosciuta, le hanno detto Pardi. Vabbè, che c'entra? Li conosco, caricano di più. Infatti, appunto, sarebbe una cosa sfavorevole. Va bene, allora ripeschiamo l'ascoltatore di prima. Però, secondo lei, questi qua che affittano dagli enti, sarebbe bene che non lo facesse. Francamente, tutti i privilegiati, noi siamo una casta di privilegiati obiettivamente, tutti i ricchi, tutti quelli che hanno rapporti diretti con le strutture dello Stato, eccetera, dovrebbero evitare garbatamente di ricorrere a questi mezzi. Hanno già i mezzi per procurarsi delle case. Si rivolgessero alle agenzie immobiliari, al privato, al mercato. È veramente, cioè, danno poi, tra l'altro, io lo dico perché io mi sento rovinato nell'opinione pubblica da questi comportamenti. Io non lo faccio e non lo farei perché mai. Danno e certo, ci sporcano tutti, sembriamo tutti dei maledetti affaristi. Però Castelli ha lasciato subito la casa, ha firmato subito la disdetta. Era meglio se non si faceva pizzicare. Poi tutti con quel loro atteggiamento che hanno, Roma ladrona, che cosa vengono a fare, a praticare l'arte in loco? Boh, non lo so. Beh, effettivamente, l'Enasarco, la Lega, non è che proprio no. L'Enasarco, come hai ricordato, è l'ente di previdenza degli agenti di commercio. Non è proprio un ente controllato dalla politica. Però è controllato dal Ministero del Lavoro, è supervisionato. È fuori di dubbio che abbia dei rapporti con la politica. Insomma, è meglio rivolgersi a un'agenzia immobiliare, come fa qualsiasi cittadino. Cioè, se no, altrimenti i cittadini che ci stanno chiamando e ci stanno mandando dei messaggi. Certo. Anche per i giornalisti, Cioè ci sono anche molti giornalisti che vivono nelle case degli enti. Vale per tutti, vale per tutti. Soprattutto per le persone in vista, per quelli che rappresentano qualcosa di fronte nella scena pubblica. Tutti quelli, che, indipendentemente dalla professione, dovrebbero trattenersi. Tanto più che hanno i mezzi per soddisfare i loro desideri. Non sono dei poveracci. Allora, andiamo di nuovo a Pavia a recuperare l'ascoltatore di prima. Giovanni, buonasera ancora. Vediamo se Buonasera, dottor Cruciani. No, niente, io sono un agente di commercio e mi avete annunciato un po' l'intervento il mio collega di Firenze. Era proprio questo il concetto. Anche lei ha cercato la casa all'Enasarco e non l'ha trovata? Io fortunatamente non l'ho mai cercata, una bella casa a Pavia, comprata privatamente e così via. Però il concetto è proprio questo. Non ce l'ho col ministro Castelli, al quale avrei voluto fare la domanda direttamente. Ma è possibile che un uomo di Stato, conoscendo i prezzi di mercato di Roma, non si debba porre la domanda? Perché questo ente fitta una casa a 700 euro? Vuol dire che è mal gestito. Tra l'altro, avendo il papà anche agente di commercio, non so se è ancora vivo il papà di Castelli. Guardi che Castelli comunque ha ammesso che forse sarebbe stato il caso di non affittarla, però ha detto anche: io ho chiesto a un amico, mi ha messo in contatto con l'Enasarco, mi hanno detto un prezzo, l'hanno fatto loro, l'ho presa quella casa, il problema è dell'Enasarco, non è mio. Secondo me però non si è posto un po' il problema se ci stanno delle graduatorie, se no, se ho scavalcato qualcuno. Ma non credo ci siano delle graduatorie, non lo so, francamente non lo so se ci sono delle graduatorie. Comunque la ringrazio, andiamo a Verona, Lucillo, buonasera Lucillo, dica. Sì, buonasera. Dica. Allora, io è qualche sera che la sento indignata per per le case in affitto. Ma guardi, indignato è una parola grossa, ne abbiamo parlato, io sai che non mi indigno mai, cioè, non, ne stiamo parlando, però, certamente quando si ha a che fare con la cosa pubblica un po' mi incazzo, però insomma. L'ho sentito indignato per qualche settimana fa per il bambino di Palasciarpa di Milano. Quello, ma sì, è una questione politica, mi fa indignare uno che porta un bambino di 15 anni a Palasciarpa, secondo me non va bene. Sempre così. Mi ricorda Marinetti, sa lei? Che Marinetti, Marinetti. Era sempre indignato su per le stronzate, no? E mai per le stronzate. Allora lei è così tollerante per Berlusconi, sempre così tollerante per Berlusconi. Ma guardi, no? Che non sono tollerante per niente con Berlusconi, guardi, cioè, no, lei si sbaglia. Sì, ma lo sa che c'è una legge del 57-361 che proibisce di candidarsi chi ha concessioni pubbliche. Sì, questo è un cavallo di battaglia del professor Pardi pure da un sacco di tempo, però insomma, lo sa, francamente. E come mai che non si indigna di questo? Lucillo, abbia pazienza, non mi citi la legge per cui Berlusconi non si poteva candidare, è un problema finito, chiuso. Non è finito. Benissimo, allora continui a portare questo vessillo in mano, così risolviamo le cose. Cruciani, vedete che fa con Marinetti? Va bene, non è finito. Cosa ha fatto Marinetti? Si indignava sulle stronzate. E poi quando l'hanno fatto accademico si è messo la camicia nera e è diventato fascista anche lui, no? E lei come Marinetti, no? Si indigna Dunque per io che cosa mi dovrei mettere? Marinetti ha fatto delle cose strepitose. Tra l'altro non mi vergogno per niente, ma comunque in ogni caso lei dice che io dovrei già averci la camicia nera o comunque la camicia nera. La camicia nera Marinetti, sono queste le cose strepitose che ha fatto Marinetti? È diventato fascista e anche altro, all'epoca erano tutti fascisti quasi. È come criticare Camus, Ezra Pound, lo si legge, no? Li si apprezza anche per le cose brutte che scrivono e che dicono, sono gli intellettuali. Cruciani, erano tutti fascisti, Gramsci, Bertini, tutti fascisti. Ma non sto dicendo tutti, molti intellettuali all'epoca. Però Lucino, non mi faccio andare su queste cose che è una cosa che annoia, questi argomenti annoiano tutti. Lucino, lei mi ha rispolverato la legge che non... Cruciani, sono le stronzate importanti. Vabbè, invece mi dovrei indignare per Berlusconi ogni giorno. Il bambino fa la sciarpa e da indignarsi. Certo, io mi arrabbio quando vedo un bambino sfruttato politicamente e portato su un palco, no. Su un palco tipo Pyongyang. Abbia pazienza. Il battamano a Gheddafi è inadeguato. È stato un po' esagerato. Dovrebbe indignarsi che abbiamo un presidente del consiglio che va a minorenni. Questo dovremmo indignarsi. Via all'assalto a minorenni. Via all'assalto. Certo, l'ha detto la moglie. Ci crediamo più la moglie o devo credere a lei? Chi ha detto devo credere a lei? No, a me, per carità, no. Credo alla moglie. Non mi fate arrabbiare adesso. No, perché lei si indigna sulle cazzate. Lei è un classico, no, Dominari dicevano che c'è il potere economico e i laureati asserviti il potere economico, no? E lei è un laureato asservito al potere economico, che la mettono in culo ai lavoratori e ai pensionati. No, Dominari, che non era mica un comunista, Don Milani non parlava proprio come lei, Don Milani. 30 secondi, torniamo subito. 30 secondi, si fermi, Lucillo. Partanzano come zanzare. Queste ombre sono la strada. Siamo qui, senatore Pardi. Ma è vero che lei vuole fare l'Aventino? Cioè è favorevole a quella proposta che viene da un certo mondo intellettuale, giornalistico, politico, che vorrebbe il ritiro di una parte, comunque dei deputati dell'opposizione, deputati e senatori dell'opposizione, dal Parlamento, in modo da bloccare il Parlamento e insomma portare il Paese alle elezioni. È favorevole? No, non in questi termini. No, in che termini? No, l'Aventino è stato proposto da Padellaro e poi è stato ripreso dal Micromega. L'Aventino, allora hanno proposto le dimissioni, poi hanno spiegato che anche loro non pensavano all'Aventino. L'Aventino suona male perché la volta che l'opposizione col fascismo si rifugiò sull'Aventino, finì molto male. Sì. Fu come una sorta di abdicazione dei suoi compiti. Però non c'è il fascismo adesso. Ora non c'è il fascismo, c'è qualche cosa di molto repellente, ma non è il fascismo. Repellente comunque, è un giudizio perché diciamo no, estetico. Anche, no, dico, è così, dico così, pericoloso. Non è il regime, però. È un regime. C'è il titolare del potere politico che è il possessore dei mezzi di comunicazione. E questo vale da 17 anni. E questa è una cosa che non esiste in nessuna parte però del mondo. Però da 20 anni è così, no? Il fatto che sia da 20 anni mi preoccupa, non mi solleva. No, peggio, però cioè, è una cosa anzi, con cui gli italiani ormai. A me non piace che gli italiani si abituino a questa cosa. Secondo lei, gli italiani. Spiegare l'Aventino, sì, ha ragione. Non è l'Aventino, non è la fuga dal Parlamento, semmai la sollecitazione che viene dai gruppi, la firmatari Camilleri, D'Arcais, sì. Furio Colombo stesso che sta nella Camera, è quella di accogliere nel Parlamento la richiesta di energia che viene dalla società civile, come dire, fatevi vedere, fatevi sentire, perché fate la manifestazione, ecco, tutto finito, chiamatelo. No, è l'idea, è una richiesta difficile, perché loro chiedono di esercitare una sorta di fermissima, inesorabile, continua azione di ostruzionismo. Ora il problema è che l'ostruzionismo nel Parlamento italiano non si può più fare. Perché non ci sono più leggi? Perché i regolamenti di fatto lo rendono impossibile. Sì, però, i tempi sono. No, lei, vorrei che lei lo considerasse. I tempi sono contingentati. Al punto, per esempio, che le faccio un esempio. Sarebbe una follia. Sì, ma su, per dire, ai vecchi. Lei si ricorderà quel famoso film. Come no? Certo, c'erano. No? Il cittadino americano che parla per 13 ore consecutive per impedire la realizzazione. Non si può più fare una legge. Ma non si può più fare nemmeno parlare per un'ora. Non si può più parlare nemmeno per 15 minuti. Però, secondo le parti, meno male che è così, altrimenti il Parlamento diventa una babbella interminabile. Però, di fronte a leggi che ripugnano alla coscienza e al senso civico, non c'è la possibilità di determinare. Vabbè, insomma, ho capito. Allora, il regolamento, io so. Lei cosa vorrebbe fare? Ritirare? No, ho provato a spiegare. Non partecipare alle sedute, però quelli approvano. No, bisogna partecipare. No, allora, io sono. Allora, l'Aventino decade, non c'è più l'Aventino. L'Aventino non ci può, non conviene che ci sia. Non conviene. E poi non è realizzabile nemmeno. Bene. No, non è nemmeno realizzabile la prassi delle dimissioni. Perché? Sì. Il meccanismo. Quindi sono a padellare non è, si no, attaccano, le dimissioni non sono possibili, cioè, perché poi vengono respinte, cioè uno dà le dimissioni ma viene sostituito, allora bisognerebbe immaginare una potenza come posso dire coercitiva dell'opposizione tale da impedire anche ai sostituti e ai sostituti dei sostituti di presentarsi in aula. Negli ultimi tempi il potere di convincimento dei partiti è molto sceso. Quindi l'idea che l'intera opposizione possa rimettersi a uscire è totalmente irrealistica. E allora che fare? Non si può fare niente. Infatti, questi appelli non hanno senso. Occupare la Camera. Non si può occupare la Camera nemmeno. Noi una volta l'abbiamo fatto. Sì, ho capito. Allora, noi una volta l'abbiamo fatto. Tutti questi appelli cadono nel vuoto perché non si può fare nulla. Però, è un onanismo intellettuale. Non bisogna nemmeno avere l'atteggiamento del dire che siccome quella cosa non si può fare non si deve fare nulla. C'è l'opposizione in Parlamento, l'opposizione in Parlamento quando si finisce la recita degli interventi degli è la democrazia. Come? Cioè c'è la maggioranza e l'opposizione, no, per carità, è la democrazia, sì, è normale, però no? Bisogna ricordarsi che questa siamo stati votati con una legge elettorale infame. Ma quindi pure lei però. Sì, anch'io, certo, lei. Lo so anch'io, sono eletto con questa legge. Ho capito, però però il funzionamento della democrazia. Questa è una legge elettorale che attribuisce un premio di maggioranza a una grossa minoranza. È una cosa importante. Però le chiedo una cosa prima della pubblicità, nella maggioranza dicono noi rappresentiamo la maggioranza degli italiani. Adesso non mi faccio questo discorso. Loro rappresentano una grossa minoranza. Ma la democrazia funziona così. E hanno la maggioranza. Però questo è un discorso che non vale perché la democrazia funziona in questo modo. Non c'è nessuna democrazia in cui chi governa ha il 51% degli... dove c'è il proporzionale, dove c'è il sistema proporzionale funziona. Devo dare la linea assolutamente alla pubblicità. Che succede in Inghilterra? I capannoni, i capannoni. Bene, 8 in punto, 800 24 00 24. Non so se abbiamo il TG1, abbiamo il TG1, via TG1. Orrore in Libia, in un video le fosse comuni scavate sul litorale di Tripoli, forse 10.000 morti, figlia di Gheddafi respinta a Malta. Stranieri in fuga, caos all'aeroporto di Tripoli, piano di rimpatrio per gli italiani, l'Europa teme un'ondata di profughi. Berlusconi, il premier ha pochi poteri, tempi troppo lunghi in Parlamento, ok dal Senato al federalismo municipale, autorizzata fiducia sul maxi emendamento al mille proroghe. Delitto di Sara Scazzi, arrestati un fratello e un nipote di zio Michele, lo avrebbero aiutato a nascondere il corpo. Chiesti 9 anni in appello per il tabaccaio che uccise il rapinatore a Milano, in primo grado condanna a meno di 2 anni. La notte degli Oscar a Los Angeles, ultimi preparativi tra riflettori e grande attesa per le star del cinema mondiale, già srotolato il famoso tappeto rosso, grande favorito per i bookmaker, il discorso del re con Colin Firth. Bene, 21 minuti, 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Senatore Pardi, ma noi abbiamo troppo flirtato con la Libia oppure no? Perché in realtà, andando a vedere, tutti i governi hanno mantenuto rapporti con la Libia. Bravo. Ecco qua. Tutti i governi hanno mantenuto rapporti, ma nessuno era arrivato a livello di estetico, lei dice. No, non solo estetico, è proprio una cosa sostanziale. Di affari, di affari. Tanto, diciamo, giornali si sono impegnati in questa opera di documentazione. So che l'Unità ha fatto delle inchieste approfondite, cioè, sì, però Berlusconi ha negato qualsiasi affare personale con sempre, la Libia. Lui nega sempre. Vabbè, ho capito, cioè, un mentitore che abituale nega sempre, quindi qualcosa di vero l'avrà detto. Quello che dice Berlusconi, quello che qualcuno dice ha detto, Berlusconi, un suo collega al Parlamento europeo ha detto che è un delinquente abituale perché nel DNA ha la tendenza a delinquere. Lei no, è d'accordo? Quello io dico che è un mentitore abituale, questo la sua storia lo dimostra, cioè lui non dice la verità nemmeno quando dice che ore sono, quindi non addirittura. No, scherzo naturalmente, ma comunque lui mente. E per dire, ha mentito per esempio sulla questione che non ha mai pagato donne, non ha fatto altro che pagare donne negli ultimi anni, profumatamente, c'è il modo di pagare, insomma. Lei non ha mai pagato una donna? No, francamente non ho mai pagato una donna. In alcuni paesi è legale, è legale. Non ho mai pagato una donna. Senta, comunque la questione del rapporto con la Libia è quella di Berlusconi è speciale, perché ha fatto delle concessioni eccessive e poi, secondo me, appunto, mettendo pure da parte la questione degli interessi privati, che sicuramente ci sono. Vabbè, perché, come fai? Sicuramente ci sono. Beh, diciamo, lasciamo ai giornali che hanno i giornali, non è che sono i tribunali, continueranno l'inchiesta e faranno sapere, no? Ma la questione del rapporto è terribile, perché lui ha stretto dei rapporti di tipo personale scivolosi. Mm-hmm. La questione ottenendo del Bashar, qualcosa, però, la questione del qualcosa. Bashar, ora glielo dico che cosa ha ottenuto. La questione del basciamano è abbastanza indicativa. Lei bacerebbe la mano a Gheddafi, lei? Per carità, ma mai. Neanche né a Berlusconi né a Gheddafi. A nessuno. Comunque, a Papa? Nemmeno a Papa. Se lei incontrasse Papa, non sono credente. Vabbè, ho capito, ma anche i non credenti incontrano il Papa. Nemmeno al Papa lei bacerebbe la mano. Perché dovrei baciare? Vabbè, incontro uno, incontro. Però non c'ha ragione. Comunque, lasciamo. No, non mi verrebbe. Se non mi verrebbe. Tu sei credente, no? Ma no, io sono anche ebreo, agnostico. Non mi verrebbe naturale. No, ma ora è naturale. Ma lo sai, gli do la mano. Lo sai che bacio la mano? Appunto. Ma bacio la mano alle donne io, ma non agli uomini. È normale baciare l'anello del Papa? Incontri il Papa, baci la mano. Ma cosa ha ottenuto? Bacio la mano, gli do la mano. Mi faccio dire cosa ha ottenuto. Cruciani che bacia la mano al Papa è una scena incredibile. Ma no, ma è una cosa normale. Non buttatela in scherzo. Che cosa ha ottenuto Berlusconi? Ha ottenuto i respingimenti in mare. Lo sa dove vanno a finire le persone che sono state respinte in mare? Finiscono nei lager interni della Libia. Ma pure prima dove ci stavano, però. Peggio, cioè, ora è ancora peggio. Dove ci sono la negazione totale dei diritti umani, la tortura, la violenza e lo stupro per le donne. L'assassinio occasionale ma frequente. Questo è il paradiso nutrito dalla Libia. I lager c'erano anche con Prodi, con D'Alema in Libia. Non è che non ci fossero i lager in Libia. Non è che la Libia era un paradiso con Prodi e D'Alema. Però noi non collaboravamo a mandarci la gente. No, ma non ora è così. Invece collaboriamo a mandarci la gente. Allora, la realtà è poi questa. Cosa ha ottenuto? Un'orrenda, che spero che non si farà mai, un'orrenda autostrada costiera. Però il progetto era quello, perché a lui gli piace costruire le cose in cemento. Fare l'autostrada in Libia va benissimo. No, non va benissimo. i libici magari sono contenti della autostrada. Poi le autostrade vanno bene in Italia, non in Libia. Le imprese italiane ci lucravano sopra. Insomma, vabbè, il solito gioco. Le imprese all'estero va bene, però no. Sì, ma cioè, non facciamo in condizioni, fondamentalisti, ma non in queste condizioni, perché si deve andare. Sarà problema della Libia, però poi delle regole. Si deve andare in un posto. Ma ragazzi, qui si sta scherzando su delle cose serissime. La questione è la densità del baciamani, perché la realtà è questa, che con la Libia di Gheddafi hanno avuto rapporti e fatto affari tutti, politici, primi ministri, non si può governi, industriali, l'hanno azionisti fatto di grandi aziende, vedi il caso Fiat, eccetera. Oggi raccontato splendidamente in un'intervista di Romiti, credo sul Corriere della Sera. Col permesso della CIA. Beh, vabbè, è utile quello, sapere, cioè, no. Ma voglio dire, Romiti dice: io ho fatto la joint venture finanziaria. Tutti quanti se ne fottevano dei diritti umani, tutti se ne sono fregati dei diritti umani in Libia, certo, dal primo all'ultimo. Dal primo all'ultimo, tutti. Aziende, industriali, ma questo lo dico non per condannarli, dico semplicemente che dei diritti umani in Libia se ne sono sempre fregati tutti. Questo è un fatto. Vabbè, ora però che sappiamo, dipende anche da quello che si sa. Ora che sappiamo di più, non vedo perché dobbiamo far finta di non sapere. Beh, adesso secondo me vanno rotte quelle relazioni, se fosse vero che lui ammazzava 10.000 persone. No, io spero francamente che Gheddafi venga tolto dalla scena. Eliminato magari. In maniera violenta, no, che lo mandino in esilio, che lo mandino con le Gheddafine su qualche isola a godersi la pensione, per carità, ma non comunque venga tolto dalla scena, perché questo è un fattore oramai un fattore di destabilizzazione. Come si può credere a una Libia divisa tra una Cirenaica e una Tripolitania con tutte le lotte intestine? E poi chi è arrivato al punto di bombardare il proprio popolo non può restare lì. Se resta lì è una cosa veramente temibile, è una bomba in attesa di esplodere un'altra volta, è un fattore di pericolo gigantesco. Io credo che non ci sia una cancelleria occidentale che può avere ormai rapporti, se fosse provato quello che sta avvenendo, rapporti con la Libia. Piero dalla provincia di Roma, 800 24 00 24, Piero dica. Volevo parlare a proposito dell'Enasarco. Intanto buonasera a tutti. La Libia è, io credo che poi uno gira per strada, vogliamo parlare di Libia, parliamo di Libia. La persona che mi ha preceduto nel parlare, parli di Enasarco, Piero, prima argomento. Enasarco, case, affitti, affittopoli, quello che è. Enasarco è la manifestazione di un'Italia che è bella addormentata. Sono 30 anni che l'Enasarco, con i soldi di noi agenti di commercio, ha fatto e strafatto quello che voleva, affittando appartamenti a tante persone che non sono agenti di commercio, perché con i nostri contributi ha comprato quegli appartamenti. Sì. E inoltre, essendo, adesso mettiamola sul personale, io ho una pensione di invalidità in Asarco che mi è stata ridotta da quando sono andato in pensione. Vabbè, Piero, adesso non ci può raccontare la sua storia personale perché non la conosciamo. Lei sta dicendo che... mia storia, però vi dico che questo paese... Sì. Consente questi feudi, questa è una democrazia feudale. Sì, però scusi, lei si dovrebbe rivolgere ai gestori del fondo Enasarco, della fondazione Enasarco. Non solo Enasarco, ma tutta l'Italia è gestita in maniera feudale. Va bene, è d'accordo, una democrazia interpretata in maniera rinascimentale. Va bene, grazie. Giuliano dalla provincia di Genova, buonasera. Buonasera, dottore. Senta, io volevo fare qualche commento su quello che dice tante volte mio roommate Parenzo. Paranza, però poi mi è venuta in mente una domanda più interessante. Di lei si dice molti spettatori dicono che lei è di destra. Sì, ma lei lo nega, dice che non è vero. Ma non mi interessa destra, sinistra, non mi interessa nulla. Lei può non interessare, ma però alla gente che parla, la gente che parla interessa, va bene. Si fa un'idea di con chi parlano, no? È bene detto questo. Le opinioni sono quelle che sono. Guardi Giuliano, però noi sentiamo veramente male questa telefonata, dunque la dobbiamo richiamare. Pubblicità intanto, 800 24 00 24. Pensano come zanzare queste ombre sulla strada. Piace anche al senatore Pardi questo Folco Orselli, sì. Ricorda un po' simpatico. Chi ricorda? Conte, sì, è vero, una voce profonda. Anzi, sembra quasi che lo imiti con intenzione. Folco Orselli, la spina. Bravo, però non lo voglio diminuire, magari lui si sentirà offeso a dire che io non lo conoscevo. buttano le briciole dai palconi. Allora, c'è molta polemica per alcune frasi pronunciate a Gerusalemme da Umberto Eco. Cioè? A me non sta molto simpatico Umberto Eco, come probabilmente sai, caro Parenzo. Sì. Ma questo non conta, che vuol dire? Non è di interesse. Cos'è questa notizia che dai? Berlusconi è paragonabile a Gheddafi Mubarak? Domandano a Eco. Alla fiera di Gerusalemme del libro, dove Eco è protagonista naturalmente. No, risponde lui, il paragone intellettualmente parlando potrebbe essere fatto con Hitler. Addirittura. È vero che dice intellettualmente parlando. Anche lui giunse al potere con libere elezioni, risponde lo scrittore. Ma Berlusconi non è un dittatore come Mubarak e Gheddafi, perché lui ha vinto le elezioni con il supporto di una grande maggioranza degli italiani. In Italia non c'è lo stesso regime dei paesi del Nord Africa. E non va dimenticato il fatto che c'è un elettorato pronto a supportare Berlusconi. È piuttosto triste il fatto che ci sia un elettorato pronto a supportare Berlusconi, ma è così. Ma non è la grande maggioranza degli italiani, lì Eco si sbaglia, perché insiste ancora su questo, non ha mai avuto la grande maggioranza degli italiani. È una cosa tutta intellettuale. No, come intellettuale? Ma non è così. Il suo partito è al 30 scarso. Ho capito, ma quindi lui non ha mai avuto la maggioranza degli italiani. Anche chi vota agli altri riconosce gli altri partiti alleati che sono stati mano a mano alleati nel suo partito, riconosce Berlusconi come leader. Ma non hanno mai raggiunto la grande maggioranza degli italiani. Sono una grossa minoranza. Negli Stati Uniti votano in pochissimi, eppure nessuno mette in discussione il fatto che il governo sia legittimo o comunque che il governo sia l'espressione di una maggioranza. Ma però certo. Negli Stati Uniti nessuno monopolista televisivo oserebbe presentarsi. Ma quello è un altro discorso, alle però elezioni. Parli. Allora, Hitler, io però continuo Hitler, a farlo. Berlusconi come Hitler, dicevo. Io credo che i paragoni in politica non funzionino però mai. Però lei è d'accordo? Bene. No, non sono d'accordo. Meno male. Non sono d'accordo perché secondo me... Nemmeno intellettualmente? Nemmeno intellettualmente, perché fare questo tipo di paragoni si ottiene l'effetto di sviare l'attenzione dal fenomeno in sé, dalla natura intima del problema. Fare il paragone con Hitler evoca una quantità di associazioni mentali con la svastica, l'SS, la Gestapo, la Wehrmacht. E a chi assomiglia Berlusconi? No, non assomiglia a nessuno. Non assomiglia a nessuno. Sua moglie che dice di Berlusconi? Mia moglie dice che dovremmo chiedere il danno biologico. Addirittura danno biologico. Perché lei è d'accordo? Sì, sono d'accordo. Perché con l'entrata in politica il danno biologico, e lo spiego perché. Perché dobbiamo fare causa perché per il danno l'anomalia biologico. No, perché l'anomalia italiana. Pancio, ti prego. Così, ti prego, è una cosa serissima. L'anomalia italiana. Ma lei ha fatto denuncia sulla ha avvilito la vita civica e politica italiana. Berlusconi ha inquinato alla radice politica italiana. Questa è una sua valutazione politica. E questo determina un effetto di, diciamo così, di avvilimento moltiplicato, avvitato, che provoca diciamo, delle persone è un orizzonte di tristezza. Il e dunque biologico. Danno biologico. Ma da chi vota moglie ha fatto perché, causa, no, per questo? Perché? No, perché no, la causa si fa in senso politico, ci si dà da fare per far finire questo scempio della democrazia. Ma chi vota Berlusconi? Lei come lo considera? Chi vota Berlusconi? È danneggiato biologicamente a vita? No, invece non indulgo neanche a facili semplificazioni. Ma perché c'è chi ha detto, per esempio, che è un coglione, che chi vota cretini, Berlusconi, che è tutti cretini? No, per carità, c'è un sacco di gente che vota Berlusconi perché ci trova il suo interesse. Vabbè, quello tutti, però anche chi vota la sinistra, appunto, cioè, anche chi vota l'Italia dei Valori, magari. E quindi, diciamo, quello è un fatto di natura poi? Oggettiva. Poi ci sono quelli che lo votano sedotti, diciamo, dall'universo della comunicazione. E questo non può essere trascurabile. Vabbè, quello fa parte della democrazia. Anche fa parte della democrazia, però il problema è che lui c'ha i mezzi. Insomma, visto che ha toccato capito, ma i mezzi, ma gli altri non ce l'hanno. Chi vota Berlusconi, cos'è secondo lei? Un po'. No, non esiste un'unità. L'elettorato è pluralistico. Non si può dire. Ma le fa un po' tristezza chi vota come Prego, chi vota Berlusconi, no? Cioè, se uno le confessa, no, io ho votato per Berlusconi, lei che dice? No, a me fanno tristezza quelli che potrebbero votare contro Berlusconi non votano contro e si astengono. Ma amici, lei tra la massima tristezza me la fanno coloro che sarebbero contro l'anomalia italiana, però sono così schizzinosi nei confronti dei partiti di centrosinistra. Questo non va bene, quell'altro non è perfetto, quello non mi piace, che non votano. Io dico, ma lei, amici, la cosa amici che mi fa tristezza. Amici berlusconiani? No, amici berlusconiani non. No, manco uno. Una quantità enorme di amici astensionisti, cioè, che tutte le volte cerco di affrontare. Potrebbe avere un amico che vota per Berlusconi? Difficile, molto difficile. Molto difficile. Non ci sarebbe un terreno d'intesa. Non, per cui per lei sono un po' alieni Berlusconi, dal suo mondo. Berlusconi è uno che in 40 anni ha letto soltanto, se li ha letti, i bilanci delle sue imprese. Un suo parlamentare mi ha detto che non legge nemmeno i bilanci perché sa che sono falsi. No, quindi, vabbè, dai, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no non è possibile che lei sia così comunista nelle amicizie. Non sono comunista nelle amicizie. Beh, nell'amicizia no. Sì, nell'amicizia è impossibile sì. Avere per me ma avere un amico Berlusconi. Io ho un sacco di amici pur votando più o meno e vabbè siete più tolleranti si vede. Io tra l'altro sono anche molto tollerante perché però lei dice io non potrei mai avere un amico che vota per Berlusconi. Molto difficile, molto difficile. Aspetto, diciamo, posso aspettare fiducioso che muoia Berlusconi, che si presenti qualcuno simpatico con cui intrattenere i rapporti, ma mi sembra molto difficile. La vittoria di Vecchioni all'inizio della controrivoluzione? Francamente le confesso che non ho sentito il Festival di Sanremo. E con questo ho detto tutto. 20 e 18, traffico. Grazie al senatore Pardi, grazie. Danzano come zanzare queste ombre sulla strada. Siamo qui 20 e 19 800 24 0024. Stava rientrando una persona, avete bloccato tutto, una cosa pazzesca. Beh, ascoltatori, che adesso puntata, la facciamo rientrare. Luigi da Reggio Emilia, buonasera Luigi. Buonasera Cruciani. Dica. Ma il mio intervento voleva essere su Castelli. Una persona come lui, c'è cioè un onorevole che mi paragona Saviano a buona Picella, con tutto il bene che vuole con la Picella, mi fa capire quanto la cultura italiana stia a cuore a nostro. No, però mi scusi, non ha detto questo Castelli. Castelli ha detto una cosa: siccome Apicella è un piccolissimo episodio, non ha potuto tenere il suo concerto, non terrà il suo concerto a Milano il 10 marzo. Io l'ho presa come una cosa un po' scherzosa. Lui ha detto: no, ma insomma, c'è un clima di intimidazione. Se fosse successo a Saviano, ci sarebbe stato un sollevamento generale. È un paragone assolutamente di senso, ma non tanto per Saviano. Senza voler entrare nel merito di quel no, Saviano, ma cioè come figura mi sembra completamente no ma lei su questo luogo. Vabbè, cioè, allora... poi a Picella ha deciso lui di non farlo, non è che sì no certo non c'è nessuno che gliel'ha impedito peraltro sembra che avesse venduto solo un biglietto Luigi però al di là di Picella se non voglio restare sulla questione di Picella cosa ci voleva dire? No, volevo dire che comunque questo è lo specchio del fatto che questi signori sono quelli che sono il governo. E le ripeto, non è un discorso di destra e di sinistra, ma proprio di spessore culturale. Abbiamo tagliato la cultura per far quadrare i nostri bilanci, unici in Europa, quindi è chiaro che poi saltano fuori discorsi di questo tipo. D'altra parte, se un esponente del governo mi dice che è un problema per l'Italia, se il buon Picella non vuole fare il suo concerto perché ha paura di partire di Berlusconi, fa sempre parte di quei cani che si mangia la coda e ultimo di tutti che poi Castelli mi dica che lui ha affittato da Nasacco non ne sapeva niente di questa cosa per lui è stato non sapeva del valore della casa probabilmente un valore sottostimato di 300 euro questo ci ha detto Ma avete sentito le parole giudicate lei pensa che ha ottenuto un prezzo di favore che abbia ottenuto soprattutto la casa perché era ex ministro anch'io penso che abbia ottenuto la casa subito perché comunque è Roberto ovviamente Castelli, una persona nota e conosciuta ha più possibilità di un altro perché l'ha lasciata io penso che un politico debba andare come tutti noi da un immobiliare qualunque no ma il problema è che non chi è? Che succede chi è? È entrato qualcuno di nuovo Genchi sì, Gioacchino Genchi un uomo ancora, in balia dello Stato buonasera ancora il difetto di questi politici è che non hanno studiato l'estimo quindi poi come Scaiola come l'estimo è una scienza che consente di apprezzare il valore di un bene immobile certo. Si studia ci sono dei corsi si fanno al geometri all'agraria anche per i terreni ma anche per le case estimo si chiama sì lo conosco bene hanno l'estimo. Difetto di estimo Scaiola per esempio poveretto insomma lo truffano non sapeva gli vendono una casa a prezzo di box e questo è il poveretto ci cade tanto che la procura di Perugia non l'ha nemmeno iscritto al registro degli indagati anzi probabilmente apriranno pure un fascicolo per subornazione di incapace no non esageriamo cioè che lei ha tanti problemi ma adesso posso parlare mi hanno fatto il più grande regalo perché vedi David, la notizia di stasera che Genchi è stato cacciato dalla polizia ufficialmente mi hanno tolto la divisa ma la dignità non riescono a togliermela poi il mio impegno ma quante possibilità ci saranno che lei ritorni nella polizia ecco io da questo momento l'ho detto chiudendo 7 ore di intervento al Consiglio Centrale di Disciplina sì. Se io dovessi cioè, essere sentito per sette ore a mia difesa se io dovessi essere destituito dalla polizia e lo sono stato da oggi il mio impegno è quello di rientrare al Viminale al Ministero dell'Interno dall'ingresso principale cioè vuoi fare ministro degli interni non ho capito anche se non ho mai morso al polpaccio un poliziotto cioè lei, non suo... penso di avere meno fatto la battuta su Maroni in questo momento. Sì, questo è importante. Cioè, lei in questo momento il suo obiettivo, dopo essere, che è abbastanza curioso, il giorno stesso in cui viene cacciato dalla polizia, lei, la sua ambizione è quella di fare il ministro degli interni. Esatto. Il rientrare... Dunque lei ci sta dicendo che, per esempio, tanto per prima di diventare ministro degli interni, può considerare... No, no, ma questa voglio fare il ministro degli interni di un sì. governo, evidentemente, dove rientrare, diciamo, non è un governo Berlusconi, immagino. Penso che non penso che la cosa sia molto, molto sia molto difficile. Anche perché, anche perché il governo Berlusconi ha, secondo me, nonostante abbia contribuito a destituirmi, quello che potrebbe è che è il migliore ministro dell'interno, perché nel parterre dell'attuale Maroni è il migliore ministro, secondo me sì, lo diceva anche Saviona, scusi, quando ancora gli pubblicavano le copertine di Panorama che Maroni è il migliore ministro dell'interno. Quando ancora pubblicavano le copertine di Panorama, mette adesso le stilettate ogni tanto. Sì, sì, vabbè, no, ma... vabbè, le performance sì, dobbiamo sì. anche sapere. Però lei allora vuol fare il ministro degli interni? Perché ci col si mio candiderà. Lavoro, con la mia antimafia, ci sono le persone che sono in carcere e stanno scontando gli ergastoli. Vabbè, so ma anche se... questo governo ha fatto qualcosa contro la mafia, no? Sì, sì, sicuramente. Beh, no, ma questo. Diciamo. O no? La chiamiamo la, i boss televisivi. Quelli che servono. Vabbè, adesso i boss arrestati, c'è cioè, tutta. No, no, i boss vanno scena, arrestati. Le persone condannate o le persone colpite da provvedimenti cautelari vanno portate in carcere. L'unica cosa è, magari, insomma, che prima di definire numero due di Cosa Nostra, Nicchi, che aveva 28 anni e che era incriminato. Io, nel mio intervento, uno degli interventi contestati della destituzione, sì. quando parlai di Nicchi, che era incriminato di avere fatto un tentativo di estorsione alla Cuffaro Tour, che è l'azienda di Pullman e di Cuffaro. E io avevo sostenuto, mentre c'era ancora il dibattito in corso, il processo in corso, sì. che era impossibile un'estorsione all'azienda di Pullman e di Cuffaro. Però adesso mi scusi un attimo. Comunque Nicchi è stato assolto perché il fatto non sussiste. Grazie alle sue intercettazioni. No, no, no, no. È stato assolto perché c'è stato un processo del tribunale a Palermo. Scusi. È e la procura no che... ha confermato la sentenza, non ha manco fatto l'appello. È vero o no che questo governo ha catturato il numero due di Cosa Nostra? Sì, ma anche 8 mafiosi al giorno, una media di 8 mafiosi al giorno. Certo, è chiaro, perché ci sono le forze di polizia, ci sono i carabinieri. Certo, questo governo c'è, non c'è la guardia governo, di finanza, durante c'è la polizia questo di governo stato. Sono stati arrestati. Lo Stato è fatto certo, dalle certo, forze di polizia, dai magistrati, però da tanti lei figli detto, del popolo. Lei ha detto una volta sul sito del Fatto Quotidiano: mi auguro che Saviano non pubblichi più i suoi libri con la Mondadori. Beh, questi però sono fatti di Saviano. Mi auguro di non vedere più una copertina di Panorama sul suo volto. Mi auguro che Saviano, specie dopo l'ultima vicenda di Rubi, non pensi più che Maroni è uno dei migliori ministri dell'interno di sempre. Esattamente il contrario di quello che lei ha detto adesso. No, no, io non ho detto che Maroni. Io non ho detto che Maroni è il migliore però... ministro dell'interno di sempre. Io dico che questa coalizione sì. di governo se doveva scegliere la persona migliore o meno peggiore sì. scelga lei se il bicchiere è mezzo pieno è Maroni, voto è Maroni. Allora, però e lei... cosa deve cogliere sì, le finezze? Sì, la differenza c'è, non c'è dubbio c'è però... grossa differenza. Mi scusi Genchi, lei vuole entrare dalla porta principale al Viminale, cioè sì. aspira a diventare chissà quando il nuovo ministro degli interni e va bene, d'accordo, ognuno può avere la sua aspirazione pure lei penso vorrà diventare il direttore no. del Sole 24 però, ore voglio, però dico, no, secondo me sarebbe 24. Anche meglio di quello che c'è no. se vuole la mia opinione no, adesso ma con mi tutti i problemi che c'ha lei abbiamo un sacco di perché? Ma, sai, io ogni, fare, io... ma perché lei ogni volta che vado da qualche parte deve far dimettere qualcuno? Mi vuole affibbiare? Posso darle una chicca? Io sì. prima di fare il concorso in polizia lo volevo fare nei Vigili del Fuoco. Avevo fatto l'orale, le prove sì, per sì. fare. Cosa e mi hanno fatto la domanda, dice ma lei un incendio come lo spegnerebbe? Con la benzina, gli ho detto. Non mi dispiace, non è mestiere suo. No, però aspetti, adesso non vada su quell'argomento lì perché non c'entra niente. Beh, lei... non so se non c'entra. Io mi voglio dissociare, ho capito. Di Confindustria. No, no, traffico pubblicità ma lei sa che io ho fatto insieme. Licenziare ho fatto ma licenziare non mi basta licenziare me Genchi ho fatto licenziare Mentana l'ultima puntata Magic l'ha ma fatto io mi tocco me. A cara Mentana non è per quello che sta ma non lo so guardi no. ci sono sempre le concause non è per quello lei però diciamo, allora, Genchi porta sfiga è evidente che io mi dissocio da quello che ha detto Genchi ma io non l'ho già fatto se fosse così allora dovrei entrare nel PDL no però Genchi adesso lei ha intenzione di candidarsi ha intenzione di fare politica no no io ho intenzione di diventare fare ministro dell'interno ho capito vabbè d'accordo però non, capito, sì, non serve candidarsi fare... serve essere nominato da un presidente del consiglio d'accordo però lasciamo perdere secondo la costituzione è ancora vigente il presidente del consiglio che la potrebbe nominare chi è secondo me nessuno dopo quello che è successo non lo so. Posso essere sincero di qual è una mia aspirazione no certo ma allora le faccio una domanda tanta lei... gente ha molte aspirazioni le nasconde perché si rende conto di non essere all'altezza si vuole candidare in Parlamento no io mi voglio candidare a fare il ministro ho capito c'è bisogno di una coalizione le posso assicurare che non serve candidare candidarsi. No, lo so benissimo. Un testo di offerte candidature e che ho rifiutato, che risulta peraltro anche nell'intervento. Chi l'ha offerto? Per cui... Di Pietro, la lista di Grillo. Ma nelle prossime, anche a destra. Nelle prossime elezioni? Anche a destra. Sì. Chi a destra? Sono stato Futura invitato Libertà. Dai giovani della destra a Taormina. Al della destra di Storacci. Sì. E ho parlato il giorno prima di Berlusconi, e la domanda di un bravissimo conduttore di Radio Radicale che ha tenuto l'intervista e per questo ha accettato l'invito, che segue tutti gli speciali giustizia, uno dei più bravi giornalisti, non è Arena, no scusi, chi è? È un altro giornalista di Radio Radicale. Vabbè. E la domanda del giornalista mi ha detto: ma lei non si è imbarazzato a sedersi nella sedia dove domani sera siederà Berlusconi? No, l'imbarazzo deve essere il suo. No, l'imbarazzo perché è di Storace, io parlato... mai, esatto. Esatto. Però le posso dire, ma che Storace, Storace l'ha hanno invitato i giovani dell'Est, c'era anche Storace e c'era in prima fila Donna Assunta Almirante, che io ho rivisto dopo 35 anni e le posso assicurare che era uguale a come l'avevo vista l'ultima volta quando avevo 15 scusi, anni. Gianchi, però e la raccomandazione che ho detto, mi auguro, Donna Assunta, che Berlusconi non abbia le sue stesse virtù, perché se fra 35 anni io devo ritrovare Berlusconi come sto trovando meravigliosamente ma lei. Poi adesso mi spiegare perché per ce l'ha così tanto sarà con una rovina. Perché ce l'ha così tanto con Berlusconi? Abbiamo però la sì, perché Berlusconi borsa, c'è il rischio che borsa, se la borsa, continua la borsa, così però... si fa la legge ad mummiam per governare anche dopo morto, ha capito? Su questo dobbiamo lo porteranno bene. Non ad persona, borsa, ma chissà ad se mummiam. Domani saremo in onda, caro Parenzo. Oddio. Questa cosa contro Riotta che non c'entrava assolutamente niente. Non c'entrava niente, non era contro Riotta. Ma come no? Non c'entrava niente. Era una constatazione di fatto. Ma non c'entrava assolutamente nulla. Ma basta, non aggravi, ma smetta, non è quello, non è che dice lei chi fa il direttore del Sole 24 ore, se lo fa bene, se lo fa male. Dico, la Marcegaia fa bene il suo lavoro. Riotta, meno male, no. Va. Riotta, no, vabbè, ma ancora. Borsa. Bel danzano come zanzare, queste ombre sulla strada. Siamo qui in questa puntata romana della Zanzara, 800 24 0024, sempre con gli ascoltatori che fra poco chiameremo di nuovo in causa. Però prima vi devo leggere una cosa strepitosa che ho letto in un articolo di Stefano Pistolini su Steve Jobs. Voi direte che c'entra con la politica italiana di cui ci occupiamo sempre, però mi ha talmente colpito questa cosa sulla morte. Sapete che Jobs è malato, è in un periodo di convalescenza, probabilmente ci saranno anche degli annunci importanti da parte della Apple il 2 di marzo. Ho letto una cosa che ha detto nel 2005 all'Università di Stanford. Caro Genchi, mi sta ascoltando oppure no? Certo, con attenzione. No, sta lì su tutte le cose appoliane che ha lei, perché è un patito tutti di Apple. Computer lei, davanti, il computer davanti, telefoni, iPad. Ma l'Apple è l'unico vero multitasking irreale, quindi io essendo un pubblicità? Pubblicità per l'Apple? Ho già anche pubblicità, adesso si chiameranno tu. Io riesco a sentirle e a leggere con te. Ma non possono leggere dei messaggi bellissimi che mi arrivano. Allora, le dico questa frase di Steve Jobs, è molto bella, è drammatica, però è stupenda, la morte. Sentite, un anno fa mi è stato diagnosticato un tumore, questo è il 2005, dunque nel 2004 mi è stato diagnosticato un tumore, come sapete. Il dottore mi consigliò di tornare a casa a sistemare i miei affari, che per i medici è il modo di dirti di prepararti a morire. Nessuno vuole morire, ma la morte è la migliore invenzione della vita. È il suo agente di cambio, fa piazza pulita del vecchio per aprire al nuovo. Il tempo è limitato, non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non rimanete intrappolati nei dogmi che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. Siate affamati, siate folli. Bel danzano come zanzare. Notevole, notevole. Bravo, ti ha colpito o no? Ti ha colpito o no? No, ma poi l'hai letto con intensità, molto, sì, bello. Non riesco neanche a scherzare, perché è molto bello. È un grande uomo. Non è facile avere un'idea della quando uno gli diagnosticano un tumore. Certo. Non è che ti vengono in mente queste cose qui, no? Ti viene in mente il dramma. Cioè, lui un anno dopo pronuncia queste frasi all'università. Che è un'idea della morte, ma che è un'idea poi anche della vita, no? Cioè del fatto che comunque le cose. Un'altra cosa, quando avevo 17 anni ho letto una citazione: se vivi ogni giorno come fosse l'ultimo, uno di questi ci avrai azzeccato. Per i successivi 33 anni mi sono guardato allo specchio e mi sono chiesto: se oggi fosse l'ultimo giorno della mia vita, vorrei fare quello che sto per fare oggi? Ogni volta che la risposta era no, sapevo di dover cambiare qualcosa. Ricordare che sarei morto presto è stato lo strumento più utile per fare le scelte importanti. Quasi tutto scivola via di fronte alla morte, lasciando ciò che è davvero importante. Tanta roba. Nel mio blog c'è stata sempre scritta una frase, da sempre, da quando ho aperto il blog, da quando ho aperto tutti i profili Facebook. Vivi come se dovessi morire subito, pensa come se non dovessi morire mai. È una sorta di Steve Jobs italiano. Questo no, è Ezra Pound. No, perché in Ezra Pound. Questa... è la frase. Esatto, Ezra Pound. Ezra Pound, vedi che. Ezra Pound. Questa è una cultura mia, della mia gioventù, però non della tua, David. No, ma che c'entra? Perché lei è un uomo di cultura no, di... Io sono uno che da ragazzo ha letto, Ezra Pound e non me ne vergogno. Era Missino da giovane? Missino, simpatizzante. Figlio di comunisti, ma Missino. Sono stato il più giovane consigliere comunale d'Italia, eletto a 18 anni nelle liste come indipendente del Movimento Sociale Italiano. In che città? A Castelbuono. Dove c'era sindaco, l'uomo più potente della Democrazia Cristiana in Sicilia, già presidente della regione all'epoca, Vincenzo Carollo. E abbiamo preso 3 consiglieri comunali, tutti giovani. Quindi per dirle che... Ma Di Pietro gliel'ho offerta la candidatura? Diverse volte, Di Pietro è un mio amico. Ripeto, diverse volte quando? Una persona diverse per volte. Bene. Alle europee, alle regionali, pure. Tutte le elezioni che ci perché sono. Perché lei ha detto di no? Si sarebbe messo al sicuro? No, guardi, io la mia battaglia è quella di vivere del mio lavoro. Cioè, di fare di ministro dell'interno. Il mio lavoro mi ha dato e mi dà tantissime soldi. Quanti soldi ha guadagnato lei con la storia delle intercettazioni? Non, mi fa, non me lo dica. I miei redditi Panorama li ha pubblicato, sono sotto processo quelli che ma hanno. Ma non me ne ricordo. Viola... Ma non so nemmeno io perché non lo so nemmeno io perché, guardi, non ho mai pensato al denaro. Io sono talmente attaccato al mio lavoro che sarei disposto non solo a farlo gratis, ma a pagare per d'accordo, continuare. Però la storia dell'intercettazione lei sa che io in polizia non ho mai preso lo stipendio per 15 anni sono stato in aspettativa non retribuita, io sono l'unico funzionario di polizia, ho capito, però prendeva che dei soldi per fare il consulente informatico, sì, ma tante persone che hanno fatto i consulenti hanno guadagnato più di me, hanno preso lo stipendio della polizia o dei carabinieri e contemporaneamente hanno fatto le consulenze. Questo le dimostra come nella vita a me col denaro non sono mai riusciti a comprarmi. No, vabbè, ma non è questione di comprare. E nella mia vicenda, a proposito di Steve Jobs, mi consente di ricordarlo perché è una cosa che merita. Io ho vissuto questi ultimi giorni con la mia famiglia, con i miei amici, non sono stati prima della destituzione della polizia. E ho pensato a una tragedia che è accaduta a un poliziotto che è stato allievo mio a scuola, alla scuola di polizia. Ragazzo più giovane che è sovrintendente di polizia che in un incidente stradale ha perso la moglie, 2 figlie e gli è rimasta una terza bambina che resterà paralitica per tutta la vita. Io penso che ci sono guai peggiori di quelli che sono capitati a me. Beh, no, sicuramente. Anche. E quindi la morte è qualcosa a cui molti dovrebbero pensare, perché la morte ti fa apprezzare le cose reali, ti fa apprezzare le vere amicizie, i veri sentimenti. E questi sentimenti non si possono comprare col denaro, col potere, con la ricchezza. Ma com'era la storia di Berlusconi, della mummia, del mummificato? Com'era la storia? La legge ad mummiam, cioè una legge in base alla quale lui non muore mai e quando muore lo mummificano. E quindi lo terranno in un sarcofago a fare il presidente del consiglio. Anzi, vabbè, è una provocazione, un'immagine tremenda. Perché? Ma non sarà ma possibile. Lui però ci pensa a queste cose. Ma cioè no, lui questa idea della immortalità ce l'ha. Sì, lui si ritiene al di sopra della legge, al di sopra della vita, al di sopra di tutto. Cioè secondo me, guardi, anche perché lei ce l'ha così tanto con Berlusconi? Che io non ce l'ho, ma io le posso dire che neanche simpatico. Pensa sia l'artefice della sua destituzione. Addirittura simpatico. No, io ritengo che Berlusconi, che è persona di grande intelligenza, quando gli hanno fatto fare le dichiarazioni di Olbia del 24 gennaio, come cui è iniziato il mio calvario. Ma Berlusconi non mi conosceva. Ma secondo me non sa proprio. Non sa mai scoppiare il più grande scandalo della storia della Repubblica. Come fa a dire che Berlusconi si è interessato a lei? Secondo me non sa niente di lei. No, ma lui le ha dette queste cose. C'è qualcosa che trilla, c'è un telefono che trilla. Berlusconi dicono. Berlusconi chiede Gioacchino Genchi. Lui probabilmente dice no, ma non lo so. O invece lo conosce. No, io personalmente lo conosco dalle carte processuali, quindi non di Berlusconi so tutto da quando ha fatto la prima comunione. I numeri di telefono pure, sai? Ma ce li abbiamo giù, sono nei processi, quindi non è una cosa di nascosto. Magari fosse stato Berlusconi nella sua difesa non saperli utilizzare bene questi dati. Però quello che fa riflettere è che... il mio calvario inizia dopo la dichiarazione di Berlusconi di Olbia, che è esattamente 2 anni prima che scoppiasse. Qual è questa dichiarazione? Non sta per scoppiare il più grande scandalo della storia della Repubblica. E quale sarebbe stato questo scandalo? Un signore ha intercettato oltre 350.000 italiani. Olbia, 24 gennaio. Quel signore era 2009. E da lì inizia. Immediatamente si sono trovati i magistrati pronti a fare quello che hanno fatto. Vabbè. Insomma, tutto il resto. C'è un signore che ci chiama da Palermo, Francesco, buonasera, 800 24 00 24. Sì, buonasera. Buonasera, dica. Per la trasmissione. No, una piccola, diciamo, un piccolo intervento su principio di legalità, perché sembra che a parole siamo sempre tutti d'accordo, quindi anche volevo approfittare del dottor Genchi, solidarietà per, diciamo, il trattamento che ha avuto, però credo che ci siano le sedi dove poter difendere le proprie ragioni, sicuramente. Sicuramente, io dai giudici, davanti ai giudici ci vado sempre con piacere, guarda. Sicuramente, però proprio approfittando di lei vorrei chiedere lei cosa ne pensa dell'immunità parlamentare, se in effetti va bene reintrodurla in Italia o se va bene solo che ci sia il Parlamento europeo, dove magari qualche deputato la utilizza, mentre se se ne parla in Italia sembra quasi uno scandalo. Poi magari c'è qualche inchiesta, qualche sempre onorevole che è stato rinviato a giudizio, però poi non si è dimesso. Quindi questo è un principio di legalità. Adesso, voglio dire, è un argomento che dopo il no della Lega mi sembra ormai chiuso, quasi, cioè, archiviato. Lei vuole quasi sapere archiviato. Cosa ne penso? Io sono favorevole all'immunità parlamentare. Ah. L'immunità parlamentare l'hanno concepita i legislatori costituenti del 47 ed era l'elemento che serviva a bilanciare i poteri dello Stato, che devono essere divisi e sovrani. Ciascun potere non deve interferire in un altro potere. Ma la magistratura di Milano sta interferendo nel potere politico? Come la giudica? La magistratura di Milano sta facendo legittimamente il proprio dovere, non sta assolutamente interferendo nel potere politico. Se ci fosse l'immunità parlamentare, il Parlamento avrebbe la possibilità di votare l'immunità e quindi non si procederebbe nei confronti di Berlusconi, e il Parlamento si assumerebbe la responsabilità politica di questa scelta, e alle prossime elezioni, nel confronto libero e democratico, in cui anche l'informazione però deve essere libera. Però su questa cosa, cioè, poi la gente le cose le deve sapere, perché se c'è un Vespa la sera che mi fa la trasmissione sul caldo o sulle diete o sugli amori dei principi e non racconta che il Parlamento ha salvato Berlusconi dal processo, per esempio, e allora non c'è una regola democratica, perché quando i parlamentari, abbiamo registrato una trasmissione che andrà in onda stasera con David Parenzo, mi parlano di parlamentari liberamente eletti, ma quando mai? I parlamentari che ci sono oggi sono come il cavallo di Caligola nel Parlamento, nel Senato romano. Caligola ha nominato Ecantus senatore e l'ha portato in Parlamento. Adesso, anziché essere cavalli, saranno asini, saranno bipedi, saranno quelli che sono. Poi magari quelli di Fli li avevano divisi in falchi e colombe, che poi per la verità di falchi e colombe non è che ce ne fossero tante, perché erano quaglie, perché volavano molto però basso. Però Di Pietro con l'immunità parlamentare non è molto d'accordo, Ma guardi che non è che io ho grande stima di Pietro, ma Di Pietro è una persona talmente intelligente che sa apprezzare anche quelli che la pensano diversamente da lui. Non può pensare che io e Di Pietro possiamo avere gli stessi gusti. Possibilmente a Di Pietro non piaceranno i canditi della Cassata Siciliana. Ma lei che ha lavorato con la Boccassini, ritiene che ha fatto una buona inchiesta? La Boccassini è bravissima a fare il magistrato. Ma ha fatto una buona inchiesta? Ma quell'inchiesta è scientifica, è fatta benissimo. Quindi sarà condannato Berlusconi? No, io ritengo che il processo sia ancora tutto da fare, perché le prove, in particolare quelle dichiarative, si formano a dibattimento. Ma lei ha visto delle non carte? Non sono né i verbali lei che ha, visto che delle ha fatto carte? La procura, né quelli ma lei che ha hanno visto delle carte? Io ho letto quello che è uscito sui giornali. Ah, solo sui giornali, non ha visto? No, non mi sono... Posso confermarle che le celle sono quelle, perché le conosco bene, le celle di Arcore, perché quando mi sono occupato dei tabulati di altre gentili signore che hanno allietato, diciamo... Ah, perché lei si è occupato anche di gentili signore che vanno ad Arcore? Sì, l'ho visto in qualche articolo da qualche sì, parte. Sì, le indagini su Perla Genovesi. Su Perla Genovesi. Qui parte da una mia indagine del 2007 su un omicidio. Che è una delle ultime che ha fatto lei, o no? Sì, una delle ultime, quando fui fermato, vedi caso. Però poi la collegarono all'indagine. Questa Perla Genovesi, ma ne parliamo dopo il traffico. 800 24 00 24. Come zanzare queste ombre sulla strada. Eccoci qui, 800 24 00 24. Mauro da Sassari, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo, e un saluto particolare al dottor Genchi, una persona con la schiena dritta. Grazie. Dica. Volevo dirle, rispetto al telefonatore concitato di prima, che le parlava del conflitto di interessi di Berlusconi, il fatto che le consideri noioso oppure superato un problema, un argomento... Ma io non lo non considero superato, considero da questo punto di vista Berlusconi un'anomalia, ma lo dico da tanti anni. Detto questo, gli italiani la conoscono questa anomalia, l'hanno affrontata, la giudicano durante le elezioni. Se la giudicano grave, votano contro Berlusconi, altrimenti votano Berlusconi. Questo non vuol dire che si deve smettere di parlare. Ma io non lo devo, ma figuriamoci, ma se ne parla continuamente del conflitto di interessi, Mauro. Però non è che possiamo fare le trasmissioni sul conflitto di interessi di Berlusconi, abbia pazienza. Si sa tutto ormai. Tra l'altro, in Italia è pieno di conflitti di interessi, non è che c'è solo Berlusconi con conflitto di interessi. Vabbè, capo del governo, non è che stiamo parlando proprio dell'ultimo arrivato. No, ho capito, però insomma, in Italia ci sono un sacco di anomalie. Una di queste anomalie è certamente anche Berlusconi in politica. Qualcuno, per alcuni, è una straordinaria anomalia, per esempio Giuliano Ferrari. rara, io in parte concordo. Per altri un'anomalia, punto e basta. Però con l'anomalia Berlusconi ormai abbiamo a che fare da 20 anni. Cioè è inutile cominciare a parlare oggi del conflitto di interesse di Berlusconi. Mi sembra una cosa ridicola. Cioè ci annoieremo profondamente. Mi rendo conto, abbiamo due opinioni differenti. Nella questione è una cosa noiosa e ridicola. Poi lei comunque scende in piazza con Forcone ancora sulla questione del conflitto di interessi. Va bene. No, non c'è solo quella. Berlusconi frequentava anche Putin e Lukashenko. Voglio dire, personaggi di questo genere. Non mi sembra che ci si concentri troppo su questo argomento qua. Mi pare che quando in qualche misura lui viene messo in difficoltà nei dibattiti delle cose, si sposti il discorso per cercare di, come dire, di tirarlo fuori, per dire sì, ma siamo tutti uguali, tutti così. Non è proprio così. Ma per qualcuno quelli non sono né argomenti né, come dire, né superati né noiosi, sono molto attuali. Il fatto che lui abbia consenso elettorale non vuol dire che di queste cose non siano quelli, non si possano mettere su un piano di discussione e di critica. Sì, no, ma nessuno lo nega, Mauro. Siamo qui per passare serate intere a discutere intorno a Berlusconi, per cui figuriamoci. La ringrazio. Gianni d'Ancona, buonasera. Buonasera, direttore. Un saluto anche a Parenzo e al signor Genchi. Direttore, sì, buonasera. Sì, dica. Buonasera. Senta, Cruciani, io vorrei parlare anche dell'informazione in Italia con lei, ma già ho visto che ha affrontato... Allora? Invece vorrei parlare della riforma della giustizia e se secondo lei veramente in Italia c'è questo grande bisogno, si avverte tra gli italiani questo grande bisogno della riforma della giustizia. Allora le dico subito una cosa, questa sera, pochi minuti fa, la consulta della giustizia del PDL, che sono quelli del PDL che si occupano della giustizia, hanno deciso, hanno trovato l'accordo per puntare in tempi veloci sull'approvazione dei provvedimenti sulle intercettazioni telefoniche e sul processo breve, però poi bisogna vedere i dettagli, la notizia è arrivata qualche minuto fa. Ecco, proprio questo le volevo dire, cioè se lei mi dice questa cosa urgenza, le dico subito che no, la riforma della giustizia in generale sì, questi provvedimenti perché vengono adottati? Vengono adottati perché si cerca di bloccare, perché servono a Berlusconi. È molto semplice, ma lo dicono anche loro. Cioè, il problema è, cioè, la riforma della giustizia, ma quale? Cioè, quale? Con quali punti si vogliono toccare profondamente? Questo è il discorso, capito? No, ma infatti è vero, perché ci hanno preso in giro. Perché velocizzare i processi è una necessità che si avverte sicuramente, si avverte. Sì. Chi ce li ha i processi sicuramente avverte questa necessità. Altrimenti tutta questa necessità della riforma, no, la necessità della riforma del processo civile, della velocizzazione dei tempi, ma noi se ne parla da mente da tanti anni. Ecco, e ci sono le ricette di esperti da questo punto di vista, ma non si affronta molto, mai molto la questione dal punto di vista strutturale. Le volevo dire, lasciando da parte il Berlusconi Gossiparo, che è anche quello del lavoro dei magistrati stessi, per carità. Certo. Senta, lasciando da parte Berlusconi Gossiparo o quello indagato, mi piacerebbe un attimo puntualizzare il Berlusconi politico. Velocemente, il Berlusconi politico. Allora, questo signore, tralasciamo il primo governo che è caduto come è caduto. Sì. Tralasciamo quello in cui sta governando, quindi lasciamolo finire la legislatura. Prendiamo in esame quando lui ha governato 5 anni. Sì. Bene, non mi sembra che gli italiani sono rimasti così, diciamo, entusiasti del suo governo, visto che alle elezioni successive. E allora? Mi sembra che questi sono dati di fatto, ha perso le elezioni con Prodi, anche se insomma di un soffio. Tutto questo entusiasmo da parte degli italiani per il governo Berlusconi quando ha governato, questo voglio dire, non mi sembra che ci sia stato, o mi sbaglio? D'accordo, grazie. Gianchi, di che stavamo parlando prima? Riforma della giustizia è l'unica vera riforma che si deve fare, è fare sì che i magistrati facciano solo i magistrati e non stiano nei ministeri o abbiano gli incarichi. Questa è la cosa seria, perché grazie alla morte di magistrati come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, cioè secondo lei non dovrebbe avere incarichi extragiudiziari? La magistratura ha assunto un ruolo importante in Italia. Sì, ma scusi, Falcone è stato consulente di Martelli, sì. Quindi aveva siamo in un momento diverso. Falcone ha deciso di andare al Ministero della Giustizia solo per una ragione. Non volevo salvare il maxi processo. No, ma infatti non volevo perché se non fosse andato al Ministero, se non avesse imposto il monitoraggio. Ma con Martelli lavorò, no? Quindi, E fu criticato da tutti, quelli che adesso hanno la foto di Giovanni Falcone nella stanza. Io ho decodificato i diari di Falcone. Quello che pensava Falcone. Io. Ha decodificato? I computer di Falcone che erano stati cancellati. E so quello che pensava anche di alcuni suoi colleghi che ora parlano di Giovanni e Paolo. Io l'ho sempre chiamato dottor Falcone, non l'ho mai chiamato Giovanni perché ero giovanissimo quando ancora ho lavorato con lui e l'ho conosciuto. E ricordo una battuta di Falcone. Io ho più paura dei miei colleghi che pensano di aver vinto il concorso per Dio di quanta ne ho della mafia. E Falcone era favorevole alla divisione delle carriere. Lei pure? Sì. Ma insomma, abbiamo un Genchi questa sera. È sorprendente. Fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio. Del ministro. Nel giorno in cui. Quando gli è arrivata questa notifica della sua destituzione? Guarda, io l'ho sempre detto. No, la destituzione di. Poche ore fa. Mi poche ore fa. Sì, sì. La ringrazio, buona serata, a presto. Grazie a lei. Noi ci caro vediamo. Parenzo, noi ci siamo. Domani, domani ci separiamo perché tu sei a Milano, devo stare a Roma, tutte queste cose. Devi fare sempre a Milano. Devi fare a Milano. È la nebbia a Milano. A domani, 18:30, la Zanzara. Ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.